Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Tante facce nella memoria, a cura di Mia Benedetta e Francesca Comencini. Testi liberamente tratti dalle registrazioni di Alessandro Portelli. Regia Francesca Comencini, con Mia Benedetta, Bianca Nappi, Carlotta Anatoli, Lunetta Savino, Simonetta Solder, Chiara Tomarelli, assistente alla regia Andrea Sandali. E che cosa le devo dire? È stato un lutto strano questo, un lutto che è fuori dagli altri lutti. All'epoca, dopo successo il fatto, nel 44 non se ne parlava, non se poteva parlare. Quando mi domandavano qualcosa non gli dicevo niente, perché se raccontavi ti dicevano sempre, beh, è la colpa di quello che ci ha messo la bomba. La notte, dopo che abbiamo messo le bombe via Rasella, ci siamo nascosti a casa di due giovani ebrei. Sì, due ebrei. La loro madre viveva clandestinamente a casa di mia madre. Comunque, in quella casa, Bentivegna si è messo in un angolo a giocare a scacchi. Io non sapevo che fare, ero inquieta, perché pensavo a quello che stava succedendo a Roma, a quello che sarebbe successo subito dopo. Ho provato a sentire la radio piano piano, ma non c'era niente, le solite musichette, canzoncine del periodo fascista. Allora ho cominciato a immaginare che cosa poteva essere successo per strada, perché immediatamente dopo lo scoppio delle nostre tre bombe, i tedeschi hanno cominciato a sparare dappertutto, noi siamo scappati con loro che ci sparavano dietro. Quando uno passa di lì, alza lo sguardo, ancora si vedono i proiettili sugli edifici. Comunque, quella sera io mi sono messa a fare delle riflessioni, ho scritto una poesia. Mi sentivo molto depressa perché c'è quel crollo dopo. E nella poesia descrivevo l'azione, ma più che la descrizione era la sensazione dell'azione. Per esempio, io dicevo che la notte era, il giorno era come una notte, tutto scuro, coperto, come se il sole non ci fosse. In realtà non era così perché la giornata era molto bella, però quello faceva parte di una sensazione che mi aveva preso l'animo già durante tutto il periodo dell'attesa, prima di compiersi il tutto. Quel giorno siamo andati a trovare mio cognato, mio marito, annamo, sembrava proprio che ci doveva andare. Che poi lui, proprio quel giorno, voleva passare a farsi i capelli dal barbiere. Stavamo a via 20 settembre, perché noi abitavamo alla batteria Nomentana, perciò per andare a via Rasella passavamo a 20 settembre a piedi. Dico, beh, ma non te devi fa, perché Umberto si chiamava, dico, non te devi fa i capelli? Dice, beh, dopo, quando ripassamo, prima andiamo da Angelino, perché Angelino si chiamava il fratello. Ma dopo può darsi che trovamo chiuso, dico io. Dice, beh, dopo, quando ripassamo. Oh, c'aveva fretta che doveva arrivare. Che a noi ci bastavano 5 minuti che eravamo salvi. E così è successo tutto là, il fatto, il 23 marzo. Mio cognato c'aveva un negozio a via Quattro Fontane. C'aveva qui il negozio e qui casa proprio, un portone dietro l'altro. Perciò lui è andato dal fratello e io sono andata a casa da mia cognata. Dopo 5 minuti nemmeno, mi ero appena messa seduta, un gran botto. E che è? Che non è? Mio cognato dal negozio, mio cognato e mio marito sono venuti subito a casa. Dice, non vi preoccupate, non è niente, sarà una gomma d'autobus che è scoppiata a fare sto botto. Lui forse, per tranquillizzarci a noi che eravamo tutte agitate, e così siamo stati là. Che sarà, che non sarà, verranno i tedeschi, non verranno. Se vengono i tedeschi, mio cognato, l'ultima parola che ha detto, poi si è ammutolito, non ha parlato più, dice... Non vi preoccupate, noi siamo persone per bene, ci conoscono da tanti anni, perciò che ci possono fa? Ne parlavo giusto ieri con mio marito. Dicevo, guarda che più ci rifletti e più pensi a che razza di azione bella dal punto di vista tecnico. Cioè, quella è stata un'azione straordinaria. Tu pensa soltanto al fatto che per la prima volta è stata costruita una bomba che doveva rispondere a un calcolo di tempi perfetto, perché doveva prendere la testa della colonna, dei tedeschi che marciavano, e doveva scoppiare in quel momento, non prima e non dopo. E tutto questo era fatto in modo artigianale. Era un'azione molto complessa, perché c'era quello che segnalava la colonna quando era via Tomacelli, quello che si toglieva il cappello quando aveva svoltato, c'erano quelli con le bombe a mano in strada per continuare l'azione. E poi c'eravamo noi, che facevamo da copertura. Era un'azione che riguardava 14-16 persone, tutti noi gappisti praticamente. Dopo mezz'ora, boom, alla porta, col calcio del fucile. Mio cognato è andato ad aprire, non ha fatto a tempo aprire che gli hanno cominciato a menare col calcio del fucile. È cascato due volte per terra. Noi volevamo sollevarlo, ma niente, stava col fucile spianato. Gli italiani e i tedeschi, gli italiani soprattutto. Ah sì, certo, pure loro gli italiani non è che sono stati dolci, eh. Comunque, conclusione dei fatti. C'era sto cugino del mio marito, ci aveva la ragazzina in braccio. Vede st'uomo grande e grosso? Questo gli prende la ragazzina e la butta in braccio alla moglie, che la moglie ce n'aveva un'altra, più piccola, in braccio. E lui l'hanno preso e l'hanno portato. Lui, mio cognato, mio marito, il cognato del mio cognato, il fratello della moglie di mio cognato e questo cugino del mio marito. No, io non ero a Via Rasella il giorno dell'attentato perché ero malata, ma posso dire che è come se fossi stata lì, perché ero con Mario la prima volta che abbiamo visto sfilare i tedeschi su Via Rasella. Ero qui a casa di Mario, proprio qui, su questa terrazza, e abbiamo studiato il percorso esatto che facevano e gli orari. Il 18 e il 19 marzo del 44 ci riunimmo qui per studiare un piano di attacco, c'era anche Bentivegna. Li aspettammo ma non passarono. Il 20 ci sediamo e li sentiamo passare. Allora ci affacciamo e li vediamo. Marciavano e cantavano. Conclusione dei fatti, prima di portarli via l'hanno massacrati de botte, poi dopo l'hanno portati di fronte a Palazzo Barberini e li hanno messi tutti in fila così con le mani alzate. E noi all'inizio non potevamo vedere niente perché noi stavamo dentro casa, stavamo piano terra, diciamo piano rialzato. E poi ci stavano loro, i tedeschi, mica ci hanno lasciato. Dopo un po' ci hanno portate via pure a noi e siamo passate davanti a loro, che loro stavano proprio così, con le mani alzate, proprio davanti a Palazzo Barberini. Poi noi strapazzate, senza manco un pelo di riguardo per i ragazzini, per noi che, voglio dire, sì, all'epoca eravamo giovani, però insomma, eravamo sempre donne, no? Niente, a calcio pure a noi. E siamo passate davanti a loro, perciò loro hanno visto che ci portavano via anche a noi. E noi l'hanno visti così, con le mani alzate, tutti in fila. Mi ricordo che c'era una piccola trattoria proprio all'angolo tra Via Rasella e il Foro. Mario ed io andavamo lì proprio per studiarli, per controllarli. Avevamo fretta, molta. Dovevamo agire di lì a pochi giorni, il 23 marzo. Il 23 marzo era una data molto importante per i fascisti, perché ricorreva l'anniversario della fondazione dei fasci di combattimento e... Va bene, il resto della storia la conoscete, non c'è bisogno che la romanzi io. Ci hanno portate di fronte che c'era una caserma. No, caserma se può dire, un ufficio della finanza, degli interni, non lo so, un ufficio insomma. Lì ci hanno messi tutti insieme in un grande stanzone, tutti quelli di Via Rasella, una parte di Via Quattro Fontane, le donne, i bambini, i vecchi. No, i vecchi non ci stavano. Tutti là, tutta la notte, senza acqua, c'avevamo i ragazzini, senza niente, un goccio di latte, niente, niente. Tutta la notte lì a piagna, a strillà, non so, potevamo manco affacciare alla finestra. Io avevo avvisato i bambini che stavano giocando nel cortile a Palazzo Barberini, gli ho detto andate via, stanno arrivando i tedeschi, infatti loro sono scesi giù, sono andati a giocare a pallone al traforo. A quell'ora Via Rasella era deserta. Tu non immaginare com'è ora Roma, il traffico, le macchine, non c'era neanche la benzina. C'erano pochi artigiani, ma oramai non lavorava più nessuno. C'era la Croce Rossa, ma Bentivegna li aveva avvisati, tant'è che non è morto nessuno nelle vicinanze del carretto dove lui nascondeva le bombe. Noi abbiamo sempre avuto la massima attenzione verso i civili. Quell'altro, dopo un po', ma dopo parecchio che si era fatto notte, ci hanno detto poi, l'hanno portati al Ministero dell'Interno. Dice, ci hanno detto poi, che man mano che entravano là, ognuno doveva dare le sue generalità. Non so se hanno preteso dei documenti o che, insomma. E sono stati là. Verso le 2 di notte così, Stelenchi, che avevano fatto mano a mano che entravano, hanno preso Stelenchi e hanno cominciato a chiamare quelli che gli servivano, da ammazzare. Il giorno dopo ci siamo svegliati la mattina prestissimo e siamo andati a prendere i giornali, abbiamo visto che non c'era scritto niente. C'era stata l'eruzione del Vesuvio il giorno prima, il messaggero ne aveva riportato notizie, ancora si parlava dell'eruzione, c'erano stati tanti morti, gli sfollati, ma di Via Rasella niente. Abbiamo preso anche il giornale d'Italia e i due principali quotidiani nazionali non riportavano alcuna notizia di Via Rasella. Quando è stato il giorno appresso che a noi ci hanno lasciate verso le 10, così 10:30, siamo andate subito a casa di mia cognata, a vedere loro se erano ritornati. Ritornati che? Invece niente. Tutta la casa sotto sopra, si erano rubati tutto quello che si poteva rubare. Tutta la roba a terra, un campo di battaglia era. Mi ricordo che ci stava uno che stava proprio là vicino alla casa, che era della PAI, Polizia dell'Africa Italiana, che era proprio la teppa della Polizia Italiana. E allora questo ci guarda, dice, fa, beh, che è successo qua? E rideva, si è messa a ride. Dico, ma che hanno fatto qua? Che hanno fatto? Ci hanno rubato tutto. E lui rideva, bello, tranquillo. Si vede che pure lui ci aveva appozzato. Mia cognata dice, non se ne occupiamo, non è niente, andiamo a vedere loro che fine hanno fatto. Allora abbiamo domandato, dice, sì, l'hanno portati al Ministero dell'Interno. Allora ci siamo avviati al Ministero dell'Interno, a piedi. Vabbè, era vicino, perché Via Rasella, Ministero dell'Interno, lontano non era, che era, Viminale, sì, al Viminale. Mano a mano che arrivavamo per strada, abbiamo incontrato quelli che uscivano, che li avevano già liberati. E allora questi hanno detto, ma come? Non sono ritornati i Pignotti? Dice, ma come? L'hanno chiamati alle 2 di notte, tant'è vero che noi abbiamo detto, ecco, vedi Pignotti, quello se vede che ha le conoscenze, già l'hanno fatto uscire. Invece... Io non ricordo bene quella giornata, è stata una giornata di ripresa di contatti, siamo andati da Duilio per pulire tutto, per far sparire il lavoro che era stato fatto in cantina. E tu pensa alla solidarietà, la moglie di Duilio, suo marito era stato portato via qualche minuto prima perché Guglielmo Blasi ci aveva traditi, ci dice fuggite, fuggite, allora io prendo il mio zaino con le poesie di Montale, Ossi di Seppia, che mi aveva regalato il Bentivegna, che era un'edizione del 25 di Gobetti, una cosa bellissima, la tengo tutta rovinata ma ce l'ho ancora conservata, gli ho anche rifatto fare la copertina. E poi siamo andati giù a dormire alla trattoria da Bernardini a Piazza San Giovanni. Quando siamo arrivati al Ministero dell'Interno, che stavamo proprio per arrivare, abbiamo visto 2 camion, tutti chiusi, che uscivano dal Ministero dell'Interno. Allora abbiamo domandato, là c'era una cosa, una guardia, abbiamo detto, beh, dove stanno questi? Così così, abbiamo spiegato. Dice, a quelli, non l'avete visti? Ma come? Dove l'abbiamo visti che non ci stanno? Dove stanno? Dice, i camion che sono usciti, adesso sono usciti, l'hanno portati. Ma dove l'hanno portati? L'hanno portati. Noi a piagna, a strepitare per sapere qualcosa. Ma dice, l'avranno portati a lavorare, noi che ne sappiamo, a noi non ce l'hanno detto. Insomma, da lì che facevamo? Siamo andati a Via Tasso. Via Tasso, niente, qui non ci stanno, non ci sono mai arrivati. Invece quelli lì poi sono arrivati a Via Tasso, hanno caricato gli altri e si sono incamminati alle Fosse Ardeatine. Quello che a me mia madre mi raccontava sempre è il fatto che quando mio padre andò alle Fosse Ardeatine la cosa fu fatta tanto di nascosto. Che non è vero per niente che avevano messo sti cartelli dove dicevano che se si presentava l'autore che aveva messo la bomba 24 ore di tempo, non è vero niente. Né la radio aveva detto niente. Infatti mia madre la mattina verso le 10:30, le 11 mi pare, almeno così mi ricordo, andò a trovare mio padre a Regina Celi, perché mio padre era già da gennaio che stava dentro, per motivi politici ovviamente, stava al terzo braccio. E lui gli disse, dice, guarda, domani non venire, questo il 24 di marzo proprio, dice, domani non venire perché ci portano a lavorare. Credo che siano delle cave, questo lui ha sentito. Dice, partiremo verso mezzogiorno, infatti poi dai fatti storici loro sono partiti a mezzogiorno. Il giorno dopo Via Rasella, mia madre e io siamo andate dal Papa, Papa Pacelli, senza mio padre perché era stato arrestato ed era nel carcere di Via Tasso. Lui ci ha ricevuto subito, noi da sole, nel suo studio privato, ha detto che sì, avrebbe fatto di tutto per aiutarci e ha provato veramente a farlo, ma non aveva abbastanza potere. Quello che però è riuscito a fare è farci avere il permesso di entrare, allora noi siamo andate e l'abbiamo visto. E io in quell'occasione mi ricordo le ultime parole di mio padre, che riflettono un po' tutto il suo animo. Lui era stato torturato, era in questa prigione, sgabuzzino, e noi eravamo tutti intorno a lui. Lui ha abbracciato mia madre guardando noi, e mentre abbracciava mia madre guardando noi, così, guardando noi, ha detto, io sono in pace con Dio e con gli uomini. E questo è stato un po' il suo testamento spirituale, che ha ripetuto più volte in questa atmosfera di tragedia. Io sono in pace con Dio e con gli uomini. Quando mia madre il giorno dopo ci è ritornata, non ce l'ha più trovato, ovviamente. Allora per 3 mesi è andata cercando dove fosse il marito. Allora una volta gli hanno detto a Forte Bravetta, un'altra volta, mo non mi ricordo manco dove. Fatto sta che lei a un certo punto non aveva manco più i soldi della camionetta, perché a quel tempo si prendeva la camionetta. Insomma, si è girata tutta Roma a piedi. C'ha presente come si dice nelle processioni, va per monte e domanda, chiedi pure agli sassi al figlio mio dove sta. Ecco, così uguale mia madre è andata in giro chiedendo a tutti dove diamine fosse suo marito. Che poi lei calcoli che insieme al marito non si trovava più neanche il fratello, perciò mia madre gli erano scomparsi il fratello e il marito. E la mia fortuna ha voluto che le mie 2 nonne si sono ritrovate tutte e 2 a ricercare i pezzetti. La tesi della rappresaglia no, non la conoscevamo. C'erano stati molti avvisi dopo l'8 settembre che dicevano: chiunque ospiti in casa sbandati verrà ucciso, caput, chiunque non li denunci immediatamente verrà passato le armi sul posto, caput, chiunque porti aiuto, sostentamento, lo stesso, caput, chiunque tenti con le armi, lo stesso, caput, caput, tant'è che i romani ci ridevano pure perché era caput per ogni cosa. Ma una cosa così no, non ce l'aspettavamo. C'erano state delle fucilazioni, il 23 marzo avevano fucilato dei nostri compagni a Forte Bravetta, ma non era una rappresaglia, era gente arrestata, compagni arrestati perché trovati con le armi, con articoli di giornale, minime cose, ma che per la legge di guerra dei tedeschi era caput. Noi speravamo davvero che l'avevano portati a lavorare. La speranza, l'ultima a morire purtroppo. Però nessun cenno, nessuna cosa, niente, perlomeno una telefonata. Che non cercavano in qualche maniera di farsi sentire? Noi sapevamo che nostro padre era a Francoforte. Ci avevano detto indirizzo e tutto. I tedeschi avevano paura di una rappresaglia da parte della popolazione, avevano fatto credere alle famiglie che il loro congiunto era salvo in Germania. Hanno addirittura mandato un soldato a dire: sì, è vero, l'eccidio c'è stato, ma il vostro congiunto non era compreso. Quindi noi eravamo ancora con la speranza accesa nell'anima. Poi sì, l'abbiamo aspettato fino alla fine, perché speravamo davvero che fosse vivo. Poi un giorno stavamo sulla circolare nera, che all'epoca passava lì, al Colosseo. E allora c'era un signore col giornale, il messaggero. E allora su sto coso, a caratteri cubitali, giustizia è stata fatta. 335 persone prese a via Rasella. Precise, le parole precise non me le ricordo più, perché io solo a vedere quello mi sono sentita male. Mia cognata appresso a me. E siamo scese dal tram perché non era possibile altro che andare. E allora lì abbiamo pensato veramente che erano morti. Siamo andate dai frati a San Callisto, ci hanno fatto vedere un elenco di 180 persone, ma i nostri non c'erano, non c'erano, perché loro non risultavano da nessuna parte. Il giorno dopo ancora troviamo sul giornale il comunicato e quella è stata la prima volta che lo abbiamo saputo. Ci siamo subito collegati, abbiamo fatto una riunione tra noi gappisti. Abbiamo pensato che potevamo metterci di guardia alle carceri, collegarci con i partiti, ma dovevamo mobilizzare i romani perché noi da soli non potevamo fare niente. Abbiamo pensato che si potevano fare moltissime cose. Poi, dopo la liberazione, abbiamo capito che in realtà non si poteva fare niente. Però eravamo convinti che li avessero portati ai forti. Fucilati no, ma chi poteva immaginare che li avessero massacrati a quel modo? Quando è uscito il comunicato, il 25 uscì, diceva: l'ordine è già stato eseguito. Sì, noi lo abbiamo saputo che erano già tutti morti e non c'è stato nessun manifesto per Roma nelle 24 ore prima, nessun comunicato ufficiale che ci invitasse a presentarci, mai e poi mai. Questo è un falso storico gravissimo. Guardi che infatti non è assolutamente vero che ci chiesero di costituirci per salvare le vittime delle Ardeatine, perché quel massacro fu eseguito in silenzio. Io tante volte mi immagino, no, come un film, questi uomini che salgono su ste camionette, queste persone che camminano disperate, che probabilmente si guardano intorno per capire bene. Forse c'è chi ci è andato fiducioso che andavano veramente a lavorare. E ci sarà stato quello più pessimista che avrà detto: qua ci portano a ammazzare. Io mi chiedo che cosa gli ha detto il cervello in quei momenti. A chi avranno pensato? Ai figli? Ai mogli? Io non lo so. Allora mi vedo queste persone, no? Mi immagino quando sono scesi dentro a sto piazzale, che hanno visto questa gamba, questi occhi, com'erano. Com'erano secondo lei questi occhi? Dove guardavano? Io penso non vedevano più niente. Io credo che non vedevano più niente, per lo smarrimento proprio. Uno vede delle persone adulte che diventano come dei bambini in quel momento, no? Ecco, quello che mi fa rabbia è pensare che mio padre in quel momento, un uomo forte che stava lottando, in quel momento chissà com'era diventato bambino, pauroso, impaurito, chissà. Magari si sarà visto come un verme che tremava, che c'aveva paura. Ecco, a te ti dà fastidio di pensare che in quel momento tuo padre è così fragile? È così inerme. Un uomo che gli è stata tolta pure la personalità, voglio dire la forza, la virilità dell'uomo, che dice: ma insomma, ma che uomo sei che ti metti a piangere? Che uomo sei che tremi? Eppure questo gli deve essere arrivato nel cuore. Ma che rabbia a me che mi fa pensare a queste persone che avranno detto: madonna mia, ma che siamo più niente? Guardaci qua, come le pecore l'hanno messi, a 5, come quando portano le bestie al macello, la stessa maniera, uguale, ma poi uno sopra l'altro. Ma guarda te che vado a pensare io, E che uno si immagina che vergogna per un uomo sentirsi una pecora davanti a quei lupi, perché in quel momento si saranno sentiti come delle pecore. Allora uno dice: uomini forti, no? Che avevano una famiglia, che hanno dei pensieri, un ufficio, una casa, una prigione, in quel momento niente, è stato nulla. Come nulla è stato il lutto. Ecco, è nulla. Io credo che da quando sono usciti da Regina Celi è cominciato il nulla. Loro hanno cominciato a uccidere alle 2 del 24 marzo e hanno proseguito fino alle 8, alle 9 di sera. Sfiniti, morti saranno stati, figuriamoci, uccidere tutta quella gente. Hanno detto che hanno bevuto molto. Io non sono stata al processo perché ero in sanatorio, ma Kapler e gli altri hanno detto che sono stati sostenuti dal cognac. Vede, io me lo immagino, l'ho ricostruito, l'ho scritto anche. Ho ricostruito con la mia immaginazione come deve essere andata questa cosa. Perché Kapler dice che uno di loro aveva già notato queste cave. Infatti lui dice subito: non possiamo mica metterli sulle sedie e fucilarli. Avevano fretta. E allora passa la notte in questo angoscioso telefonare alla ricerca del posto dove mettere tutta questa gente, dove farli sparire. E allora lui là dice la parola, la dice proprio il processo, se non sbaglio. Avevo bisogno di un posto di esecuzione che diventasse sepoltura. Era de Venerdì Santo. Siamo tornate a casa e ci è arrivata una lettera. Una busta con 4 foglietti dentro. Ognuno il nome di loro, che erano morti. Era in tedesco. Abbiamo dovuto andare a cercare uno che ce leggesse. Era Venerdì Santo, sì. E così finita la storia. Hanno scritto una lettera. È arrivata a tutti dicendo è morto. Questa ce l'abbiamo ancora, è un documento. Mio padre era quello che preparava i fuochi d'artificio, perché lui era ingegnere, pertanto era quello che preparava le armi, preparava le bombe proprio. Ho letto su un telegramma che papà era capitano dei partigiani come grado, diciamo, pertanto era quello che preparava, ecco. E mio zio mi ha detto che una volta lo incontrò a Piazza Vittorio, che gli disse, dice, senti Ruggero, portami sta cassetta de pasta, dei pomodori, così a mia moglie, così sai, c'è un po' di spesa. E sotto c'erano tutti i fucili. Perciò mio zio dice, io ero pure soldato quando sono venuto a sapere, mi ha fatto prendere pure una paralisi, perché quello portava le armi proprio. Perciò credo che mia madre lo sapeva, perché portava a lei, non credo che era una di quelle vedove che non sapevano che il marito faceva questo. Mio padre era un generale dell'esercito italiano, era monarchico. Aveva già combattuto nella prima guerra mondiale, quella del 15-18, aveva avuto 4 medaglie d'argento al valore militare, 2 di bronzo e una croce di guerra. Era un caposaldo a Caporetto, solo lui, a capo di pochi uomini, pochi soldati. E invece il bollettino di guerra tedesco diceva, stiamo cercando di conquistare questo caposaldo, ma invincibile. Per 3 giorni l'hanno tenuto e loro pensavano che fosse tenuto da molte persone. Per 3 giorni hanno resistito e questa è stata la motivazione della medaglia, una delle più belle. Poi sono stati catturati con i gas asfissianti e mio padre è stato fatto prigioniero e ha saputo della nascita di suo figlio, mio fratello, in prigionia. A quel tempo Papa Pacelli era nunzio apostolico ed è in quell'occasione che si conobbero, perché questo nunzio Pacelli andò a far visita a questo campo di prigionia e ci fu immediatamente con mio padre una grande affinità di pensieri, di spiritualità. E dico questo per spiegare perché anche alla fine, quando papà era prigioniero a Giattasso, Papa Pacelli ha provato ad aiutarlo. Io sono stata educata nella famiglia di una coppia sarda antifascista. Antifascista perché mia madre veniva da una militanza molto attiva nel Partito Repubblicano. Libertà, democrazia, solidarietà, quindi il mio percorso è stato semplicissimo, sono sempre stata antifascista. Però in questo antifascismo, essendo giovane, anzi a quei tempi giovanissima, 14enne, 15enne, ed essendo di carattere diciamo concreta e molto, io non mi riconoscevo. In questo antifascismo, dico forse con una parola cattiva, fatto di chiacchiere, a me interessava l'azione. E quelli che passavano per coloro che veramente facevano la lotta al fascismo con cose concrete erano i comunisti. Per cui immediatamente entrai in contatto col Partito Comunista Clandestino a Roma e iniziai a lavorare per loro. E quindi è stato naturalissimo che aderissi e partecipassi alla resistenza. Io ricordo la mia infanzia come la cosa più bella che mi sia stata regalata, perché vivevamo in un giardino, non andavamo a scuola, la scuola ce la facevano mia madre e mio padre, c'era molto garbo in casa, mai una parolaccia, dire ci picchiera, chissà che cosa, c'era sempre molto, molta disponibilità, grandi discorsi, e io mi ricordo questa infanzia veramente come un ricordo bellissimo, che ci ha regalato a me e mia sorella un carattere che ci ha tenuto forza, di ottimismo anche, di superare tante avversità. Beh, io di mio padre, la mancanza di mio padre l'ho sentita tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Noi siamo anziani orfani, siamo orfani bambini. Cioè io dico sempre, noi siamo come orfani perenni, perché non ce rassegniamo a questo lutto, perché ancora ce lo sogniamo questo padre noi, ancora ce lo piangiamo, perché ci è stato tolto in un modo assurdo. Una maniera troppo assurda. A me mi sarebbe tanto piaciuto dire mio padre mi ha detto questo, mio padre mi ha menato. Ma guardi che assurdo, eh? Magari di mio padre mi ha dato un sacco di botte, perché è vero come dice lei che noi vogliamo il padre buono e tutto quanto, però anche il papà che ci fa sentire questa figura di uomo forte dentro casa. E io non ce l'ho avuta. E l'ho desiderata tanto. E infatti i miei cugini l'ho invidiati tanto. Guardi, a qua cugina mia io ho fatto un sacco di dispetti che ne ho fatte di tutti i colori. Devo dire la verità, devo essere sincera, devo essere onesta. Veramente, gli ho fatto passare i peggio guai. Quello che non ha pagato quella creatura, ma era la rabbia. Che a lei gli veniva il padre. E il mio invece non veniva. Sono nata a Roma, ma dopo pochi mesi con i miei genitori siamo dovuti emigrare in Francia. In Alsazia, precisamente, proprio al confine con la Germania. Con gli anni ho capito che l'aver passato la prima parte della mia esistenza lì, in un ambiente sottoproletario, ecco, questo ha fatto crescere in me la coscienza di stare dalla parte del popolo e degli operai. Poi a 15 anni siamo tornati a Roma e io, quando sono tornata in Italia, parlavo il francese, il tedesco, ma quasi per niente l'italiano. Posso dire veramente che a Roma in quegli anni ho conosciuto la fame e sono diventata antifascista dopo l'entrata in guerra contro la Francia, che è la mia seconda patria, e poi dopo l'approvazione delle leggi razziali. All'inizio del 43 ho conosciuto Mario Fiorentini, che poi divenne mio marito. Fu una fiammata che non si è mai spenta e mai attenuata. Fu subito il mio ragazzo, il compagno di tutta una vita. Ed è tramite lui che sono entrata nella Resistenza. Però io vi voglio dire una cosa. Per me essere partigiana è stata una grande sofferenza. Sapevamo che potevamo essere uccisi, torturati, imprigionati, ammazzati come niente. Ma come hanno potuto? I crimini che hanno commesso, gli stermini. Altro che fucilazioni, cari miei, a un certo punto ci si difende, ci si deve difendere, mi spiego? A un certo punto divento fredda, le cose vanno fatte, le cose si devono fare. Poi ne risento in una maniera tremenda. C'è gente che ne parla con la massima semplicità, con la massima normalità, no, no, per me no. Per me anche il nemico era un uomo. Sia tranquillo, ma è così, c'è poco da fare e mi dispiace infinitamente. A me questa cosa mi ha bollata per tutta la vita. Era come... Come posso spiegarmi? Era come se io avessi avuto due personalità. Quando combattevo non mi toccava più niente. Io, quando ero gappista, giravo con due pistole nella borsa. Ancora oggi, se ci penso, dico, ero proprio io quella lì. Io di carattere sono sempre stata una ragazzina molto concreta. Stavo sempre nelle bande dei ragazzi, facevo giochi da maschiacci e mi piaceva moltissimo fare a botte. Poi purtroppo non è stato più un gioco. Cioè, nel momento in cui era ovvio che avrei fatto la Resistenza, perché era chiaro, era anche ovvio che nella Resistenza sarei entrata nel GAP, e non era per gioco. Ma certamente era una cosa che corrispondeva al mio carattere. Ero pronta a morire per la libertà, ma anche a difendermi, e quindi a uccidere. La situazione era talmente estrema. Cioè, noi vivevamo in una città in cui toccavamo con mano il fatto che ogni giorno lo Stato uccideva. Era una situazione quasi quotidianamente, più che di terrore, di violenza continua. Per cui l'idea di uccidere è l'istinto di sopravvivenza. A me non è mai venuto in mente il pensiero uccido, faccio male. Non mi sono mai posto il problema. Mi sono posto il problema facciamo di tutto e facciamo il massimo possibile, perché questo significava affrettare la fuga dei tedeschi. C'era talmente un'equazione nazisti-repubblichini uguale morte che l'idea di portare la morte a questa gente non ti poteva far porre dei problemi etici. E devo dirti la verità che ancora oggi, dopo 20 anni, sento dentro di me una ferocia incredibile. Quindi no, non si tratta di pentimento se penso, che so, di aver contribuito con una bomba a far saltare in aria un soldato tedesco. Non penso, che so, che era un figlio di mamma o che era il mamma di un bambino piccolo. Non la vivo così. In lui io vedo i torturatori di via Tasso, i rastrellatori di ebrei, le guardie ai campi di sterminio. Questo io vedo. Una volta insieme a Carla Bentivegna e Mario andiamo a fare un'azione in via Veneto. Era inverno, saranno state le 7 di sera, pioveva. Il nostro obiettivo era un ufficiale nazista. Camminava per la strada da solo scendendo verso piazza Barberini. Era bello, mi ricordo che era elegante nella sua divisa di pelle nera. Avanzava felice e aveva una borsa in mano. Forse era appena arrivato a Roma ed era contento, chissà. Insomma, ci avviciniamo tutti e quattro, armati di pistola. Per primi premiamo il grilletto io e Mario, ma le nostre armi, succedeva spesso, non funzionano. Allora intervengono Carla e Sasà, sparano, il tedesco ferito a morte si mette a urlare, tutte le finestre si aprono. Poi i battenti si richiudono velocemente mentre noi ci mischiavamo tra la gente. Se ci ripenso risento ancora le parole di quell'uomo che chiedeva aiuto, disperato, una cosa tremenda, Signore Dio. Con gli anni me lo sono chiesta tante volte. Ero io quella che lasciava che un uomo, anche se un nemico, un tedesco, Morisse da solo per la strada sotto la pioggia. Noi abbiamo ucciso un ufficiale tedesco a via 23 marzo. Allora, siccome il battesimo del fuoco io non l'avevo ancora avuto, mi dissero tocca a te questa volta. E io mi sentii morire, perché sparare a un uomo, soprattutto alle spalle, mi sembrava una cosa di una viltà terribile. Avrei voluto chiamarlo, dirgli mi scusi per favore, poi magari uno si gira al tempo di rispondere. Comunque, arrivati alla prima strada, Bentivegna, che mi stava di lato, mi dice forza, spara, e io niente. All'incrocio con San Nicolò da Tolentino, che va giù in discesa, io su via sparo, ma sai, proprio 3-4 colpi di seguito. Spara anche lui e ci buttiamo per terra. Mi ricordo che pioveva e l'ufficiale tedesco aveva questa borsa che noi dovevamo prendere. E prendergli questa borsa, strapparla, è stata come se gli avessimo strappato il cuore. Io sono rimasta con la rivoltella in mano, non me la sono neanche rimessa in tasca. Poi scendiamo giù e ci blocca un gruppo di fascisti che ci dicono ma che è successo? Noi hanno ammazzato uno lassù con la rivoltella. Quelli erano talmente terrorizzati che non si sono accorti che io avevo la rivoltella in mano. Poi siamo arrivati giù a Piazza Barberini e lì ho avuto una crisi tremenda. Ho detto no, non è possibile, non mi sembrava leale. E allora Bentivegna si è messo a fare tutti i discorsi, i ragionamenti e ricordati di tutti i nostri compagni che sono stati fucilati e Gesmundo che è stato torturato e Giorgio e Gianfranco Mattei che si è impiccato. Insomma, questa è la guerra, la devi prendere così, altrimenti le donne se ne dovrebbero stare a casa. Insomma, cercava di umiliarmi, però per me è stata comunque una cosa molto dura. Forse perché uccidere è contro natura, perlomeno per le persone normali. Poi chiaro, ci sono i mostri, per loro è un godimento, ma quella è un'altra storia. Per me è stata una cosa molto difficile, terribile. Credo anche di essermi ammalata proprio perché io vivevo questa angoscia continua. Chiaro, era una battaglia giusta ed era impari. Loro avevano i carri armati, le armi più micidiali, noi armi trovaticce, dei fucili che spesso si inceppavano perché ci vendevano delle pallottole che non funzionavano. Però comunque il passaggio dalla cospirazione alla lotta armata clandestina per me è stato veramente molto duro da superare. Sono contenta di averlo fatto perché altrimenti mi sarei sentita una vile. Perché in fondo noi rischiavamo continuamente. Ma io dico, ma perché? Io vorrei tanto sapere perché. Perché lui sarà messo in mezzo a delle cose così assurde, così grosse? Ma che vita avrà fatto a portare sempre ste armi in giro? Come faceva a fare questa vita? Io questo vorrei chiedermi. Io gli direi, ma tu non ci hai pensato ai tuoi figli? E io mi ci arrabbio con mio padre, dico, io sono sincera, io vorrei sapere una cosa, perché non ti sei infilato quella giacca e hai camminato pure tu come tutti? Io dico, se lo facevi oggi io non stavo così. E sono sincera, papà, è vergognoso dirlo, ma lo dico, non posso non dirlo perché lo sento. Ma chi te l'ha fatto fa? Ma un padre di famiglia non può camminare tutto il giorno in mezzo al fuoco. Ogni tanto dovrebbe cercare pure di evitarlo il fuoco, che il fuoco brucia. Dopo ci hanno detto, ci hanno spiegato, dice, vedete quella lì, la cava? Là dentro l'hanno messi. Allora ci siamo precipitati per andare a vedere. Lì che c'era? C'era niente. Era una discarica. C'era tutta monnezza, tutta roba. Addirittura c'erano i mucchi che bisognava passare così. I mosconi. Non gli dico quello che c'era. Una puzza, un tanfo che non si respirava, la carne umana che si disfaceva. E siamo andati. Ma fino a un certo punto. Poi è chiuso. De qua è chiuso, de là è chiuso, perché hanno messo le due bombe per chiudere tutto e non fa entrare nessuno e nasconde tutto. Quindi l'hanno messi dentro tutti, quindi niente. E allora tutti i giorni la gente andava a vedere e vedevamo. Ci portavamo anche le fotografie di quelli che sono mancati, così magari per vedere che qualcuno magari passando vedeva che magari l'avesse visto in qualche altro posto. Insomma, tutta un'illusione. La vita è stata tutta un'illusione. Quando è stato settembre, tutti gli italiani avevano capito che 335 persone erano state uccise alle fosse ardeatine. Avevano deciso di coprire tutto, di fare un grande monumento. Allora mia madre ha detto, no, questa cosa non si risolve con un monumento, perché noi nel nostro animo aspetteremo ancora nostro padre, anche invano, ma è umano. Allora siamo andati dal generale Pollock, questo me lo ricordo ancora, che era capo delle forze, e lui ci ha ricevuto subito. Mia madre gli ha detto, guardi, siamo venute perché, c'ero anch'io e mia sorella, perché abbiamo saputo che volete fare un monumento su questi morti, i nostri morti, e noi ci rifiutiamo di accettarlo. Noi vi chiediamo riconoscimento, corpo per corpo. Perché questo generale disse, oh mio Dio, forse ho a che fare con delle persone che, non so, magari il dolore le ha nebbiate. Ma mia madre era andata già dal professor Ascarelli, che era professore di medicina legale all'Università di Roma, che era stato sul luogo, aveva detto, l'idea è pazzesca, ma tutto si può fare. Il generale Pollock ci accompagnò e mia madre ancora sulla porta gli disse: guardi che noi non rinunciamo. Noi non chiediamo niente, non vogliamo niente, vogliamo solo che vengano riconosciuti, perché nella nostra situazione si trovano anche tutti gli altri. And we don't give up. Dopo invece, quando hanno cominciato a fare la riesumazione dei morti, andavamo là tutti i giorni. Andavamo, cercavamo di vedere. Ma che vedevi? Che volevi riconoscere? Che cosa? Niente. Erano stati ammucchiati così, uno dentro l'altro, perciò tutto, il liquame, una cosa da diventare pazzi. Non lo so io, da impazzire a vedere certe cose. Il viso poi, il viso ce l'aveva tutto storto. Una cosa che uno se la deve ricordare per tutta la vita. Noi andavamo lì più o meno tutti i giorni. Non era semplice arrivare fin lì, era un pellegrinaggio d'amore e di preghiera. Noi arrivavamo lì e poi ci cacciavano via, perché non volevano che noi vedessimo, ma insomma noi stavamo lì e vedevamo tutto. Allora c'era questa pila si dice, questo ammasso alto, che poi il segno alle fosse ardeatine si vede ancora, e sarà stato profondo 2 metri, e poi i corpi, così, uno sopra l'altro. Era un lavoro inumano per il professor Ascarelli, che stava sul posto e guidava il tutto, ma inumano anche per le persone che erano lì e tiravano sui resti. Che cosa ha fatto il professor Ascarelli? Beh, li ha fatti prendere uno a uno e ha fatto raccogliere tutto quello che avevano nelle tasche. Orologi, denti, pezzetti di stoffa, bottoni, pezzetti di carta. E tutti gli oggetti ritrovati sono stati messi in una busta gialla e su ogni cassa è stato segnato un numero. 1, 2, 3. Papà era numero 44. Io mi ricordo che stavo là quando hanno trovato mio marito. E hanno trovato il portafoglio di mio cognato sopra le gambe. Perciò è morto prima mio marito e poi il fratello. Erano uno sopra l'altro. Lui, Umberto, stava così con la testa rivoltata, perché si vede che è cascato. Mio padre credo che sia stato uno dei primi a essere ucciso, perché l'hanno ritrovato nella parte bassa. L'hanno riconosciuto da un paio di scarpe che mio padre aveva comprato a mio zio verso gennaio, poco prima che lo prendessero. E quel giorno mio zio portava le stesse scarpe, perché io aveva comprato uguali pure a lui. Allora lui, nel guardare per terra, disse: ecco Domenico, vedi le scarpe? Ha riconosciuto dai scarpe. E niente, quando l'hanno tirato fuori, mia nonna gli voleva appoggiare la testa e la testa è caduta e si è staccata dal corpo proprio. Perciò si può immaginare. Mia madre gli si è avvelenato il sangue. In quel momento mia madre allattava me, però, e pertanto il sangue avvelenato l'ha dato pure a me. Perciò io che stavo morendo, mia madre che stava morendo, insomma, è stata una cosa pazzesca. Prosperi Antonio, suo cugino, quando hanno cominciato a fare la riesumazione dei morti, l'hanno trovato così, proprio attaccato alla parete della camera, mummificato. Ancora con sti occhi sbarrati quando l'hanno tirato fuori, gli si vedeva ancora il celeste degli occhi, pensa, proprio mummificato. Era stato là 3 mesi. Ascarelli ci disse che non era morto subito, non si sa per quanti giorni aveva sofferto, perché c'aveva solo un graffio. Il proiettile si vede che quello che gli ha sparato gli ha tremato la mano, perciò gli ha fatto solo una scalfittura dietro l'orecchio. Ma ci pensi com'è morto quel ragazzo, quel cristiano? Quando ero lì ho visto una salma e ho avuto come un freddo presentimento. Allora mi sono avvicinata e sono andata a vedere le buste, mi sono fermata davanti alla numero 44 e ho visto degli oggetti che mi sembravano essere cose di papà. C'era un orologio, un ponte dei denti, dei pezzetti di stoffa, di carta, ma soprattutto questo ponte dei denti, perché io mi ricordo che 5 anni prima avevo accompagnato papà dal dentista e mi ricordo di aver visto questo ponte dei denti appoggiato sul bracciolo della poltrona del dentista. Allora sono andata dalla mamma e gli ho detto: mamma, io penso che ci sia questa cosa perché ho visto questo ponte dei denti. La mamma ha detto: chiamiamo il dentista, che ha detto: immediatamente se volete vengo. Allora siamo andati, la mamma, mia sorella, il professor Werner, il dentista e io. Io già sapevo dov'era la camera, siamo andati e ho chiesto: per favore mi potete far vedere la busta numero 44? Il dentista aveva portato con sé il calco di papà, ma lui non sapeva, non immaginava che noi speravamo che papà fosse ancora vivo. Allora ha preso la busta numero 44 e l'ha aperta, questo me lo ricordo bene ancora oggi. Ha preso il calco, l'ha messo lì e con un grido di gioia, cercate di capire, quasi a volerci dire, ecco, devono essere contente, finalmente l'abbiamo trovato, finalmente almeno hanno una salma. Ma lui non aveva capito che in quel momento lui ci stava dando la condanna a morte, perché noi speravamo che papà fosse ancora vivo. E allora ha detto, non ci sono dubbi, proprio non ci sono dubbi, era papà. È come se fosse successo ieri, perché io tutti i giorni rivedo quella scena, o la mattina, o la sera, o la notte, sempre davanti. Poi adesso che l'hanno rimucinato sappiamo tutti i particolari, come l'hanno fatto, con quale cattiveria l'hanno fatto. E allora che dobbiamo pensare? Ci dobbiamo rassegnare? Poi sai, nemmeno ne puoi parlare con gli altri, perché dice, ma se non metteva la bomba, ma se doveva presentare? Ma quando l'hanno detto che se doveva presentare? Ma che non l'ammazzavano se si presentavano? Che mio marito e gli altri che si trovavano là per caso l'hanno portati via dopo manco mezz'ora. Ma se non hanno detto niente, non ci potevi manco ragionare, perché dice, che fai? Stai a difendere quelli che hanno messo la bomba? Io non difendo nessuno, perché le cose sono così, è inutile che lo vogliamo sconvolgere, che le sconvolgiamo, sono così. Quando? Non hanno detto proprio niente. Non è vero che hanno messo i manifesti, l'hanno messi dopo i manifesti, dopo che avevano già ammazzati i 335. Queste sono cose che vanno vissute. Gli anni della resistenza, io sono sempre molto reticente a raccontarli. Non sono ambiziosa, mi dice mio marito, non mi serve di essere ambiziosa. Lucia, tu sei troppo modesta. Io non sono modesta, io conosco i miei limiti. E poi non mi piacciono tutte queste storie che raccontano sui gappisti, ci fanno anche dei romanzi su, è una cosa insopportabile, insomma. Non c'è bisogno di dire ho fatto questo, ho fatto quello. Io ho partecipato a delle azioni, non devo mettere i manifesti. Ho fatto il mio dovere di italiana, ho agito secondo coscienza, lo so io e questo basta. Solo una volta ho dovuto dire chi ero stata, quando fui decorata con la medaglia d'argento da Taviani. Taviani era allora ministro della difesa. Mi ricordo che ero insieme a due ufficiali di aviazione e lui mi scambiò per la vedova di un combattente e mi disse gentilmente, signora, lei è la moglie? Gli feci, no, guardi, la decorata sono io. Bentivegna, la Capponi, che noi l'abbiamo sentiti, non è che non l'abbiamo sentiti. E l'abbiamo pure cercati all'epoca. Però ci avevamo pure l'odio con lei. Guardi, io sono sincera, non ho mai cercato di vederla, di parlargli. Difatti, un giorno mi hanno chiamato che volevano fare un'intervista. Però veniva pure lei, Carla Capponi. Allora ho detto no, cambiatemi giornata perché io non la voglio vedere. Adesso l'ho capito, non è che non l'ho capito, che quelli stavano in un'organizzazione, era la resistenza. Però vede, io con tutto che ragiono, perché ci ho ragionato, in principio non ragionavo, anche perché che ne sapevo io della resistenza, non sapevo niente. Dopo invece la necessità mi ha fatto capire, mi ha fatto ragionare, mi ha fatto svegliare un pochetto. A casa mia non si parlavano di queste cose, noi stavamo in un paese, stavamo tanto belli, tranquilli, tranquilli. I tempi erano quelli che erano, tempi brutti, tempi di fame, tempi di tutto, però insomma... È che pure il fascismo ci ha un po' impedito di pensare. Oggi invece io ancora lo rimugino. Io ogni volta che vedo un fascista divento un diavolo. Perché certe volte parlo da sola, a casa, con la televisione. Perché ancora ci stanno, ancora si vedono in televisione. Ma dico, ma ancora, ma questi stanno ancora qua, ancora a reclamare. Ma che vonno, ma che non se lo ricordano quello che hanno fatto? Io gli vorrei dire così, ma voi ve siete messi in testa? Ve siete mai domandati che se state là al potere c'è state perché questi si sono fatti ammazzare dai tedeschi e dai fascisti? Per me Cristo è stato il primo rivoluzionario. Vede, io mi sento un'ebrea perché Cristo era un ebreo. Sono credente ma sono comunista. Il mio rapporto con Cristo durante gli anni della resistenza è stato conflittuale. È come se io avessi trasgredito, ragion per cui mi vergognavo di rivolgermi a Cristo in quegli anni, mi spiego? Sapevo che Cristo non avrebbe approvato, ma io dovevo fare quella cosa. Io dovevo agire così. Eravamo in guerra, capisce? Mio padre era un generale dell'esercito italiano, aveva combattuto nella prima guerra mondiale, aveva avuto anche molte medaglie, come vi ho già detto. Ma lui era contrario a quella guerra, perché sapeva quella che l'Italia produceva. L'Italia non aveva ferro, non aveva cuoio, non aveva armi e una guerra non avrebbe potuta vincerla mai. E questo l'avrebbe saputo chiunque, solo che noi ci siamo trovati nelle mani di una persona che credeva nello stellone dell'Italia. Ma come si fa a mandare a morire massacrati dei giovani così? E mio padre fin dal principio era contrario a quella guerra, semplicemente perché era consapevole che era una guerra persa. Quando mio fratello, che era ufficiale di cavalleria, passato ai paracadutisti, è stato mandato a El Alamein, il giorno in cui è stato mandato, che poi praticamente è andato quasi volontario, mio padre è tornato a casa e ha detto: mio figlio è morto. Ma eravamo a maggio. Come faceva a saperlo, papà? Perché era stato mandato senza armi nel deserto. Mio fratello ha avuto una medaglia d'oro alla memoria, perché è morto, naturalmente aggiungo, perché era inevitabile. E sulla motivazione della medaglia c'era scritto: avanzava contro i carri armati nemici con le bottiglie incendiarie. Ma vi rendete conto? Quando mio fratello è morto, lui era l'unico figlio maschio e mio padre non si è mai ripreso dalla sua morte. Ma ve l'ho detto che mio padre era invalido di guerra e che era in pensione quando si è impegnato nella resistenza? Perché questa è una cosa importantissima, perché lui avrebbe potuto benissimo starsene a casa tranquillo. Era un uomo vecchio, ma lui non avrebbe mai potuto, perché per lui era insopportabile vedere dei giovani mandati a morire, massacrati e uccisi a combattere una guerra che era persa in partenza. Quello che è successo alle fasse ardiatine è stato realmente un grosso, grosso trauma, perché nessuno se l'aspettava. Ci si può anche chiedere come mai, perché noi avevamo fatto già altre azioni abbastanza consistenti che non avevano avuto conseguenze. Rappresaglie non ce n'erano state. Avevano ucciso, sì, avevano fucilato, ma in realtà le due cose non si erano mai collegate. Per cui indubbiamente per noi è stato un grande shock. Eravamo sconvolti, non solo perché non l'avevamo previsto, ma in più sapevamo perfettamente che la nostra lotta aveva un senso ed era possibile solo con la tacita solidarietà della popolazione. Cioè, se tu non hai intorno una rete, anche inconsapevole, di quello che fa finta di niente se vede la pistola, di quello che ti avverte guarda che ci sono i fascisti, senza questo noi sapevamo di essere una minoranza esigua. Eravamo 19 in tutta Roma, non saremmo andati da nessuna parte. Sì, però non voglio ragionare, eh? Vogliamo un pochetto ragionare? Ecco, allora io a volte dico che se quello che ha messo la bomba si presentava sarebbe stato meglio, perché l'eccidio avrebbero fatto lo stesso. Ma il punto di dire che se quelli si presentavano, quello non c'era. Perché c'è sempre questo interrogativo. A me il fascista, o quello che non conosce tanto bene le cose, mi dice sempre: sì, però sì, quelli si presentavano. Allora ti mette subito un pochetto di dubbio, che tu dici: beh, sì, può pure essere che in effetti, anche perché se io penso che mio padre si poteva salvare, dico, avrei preferito che si fossero presentati. Anche perché avrebbero fatto più bella figura, perché dice: ma come? Io mi sono presentato. Ti ho detto che sono stato io e tu l'eccidio l'hai fatto lo stesso. Perché avrebbero fatto lo stesso, questo è sicuro. Perché alle 4 è avvenuto l'attentato. A mezzogiorno del giorno dopo erano già pronti. E quindi, Ma un'altra cosa che dico sempre è: loro hanno ucciso soldati tedeschi. Ma quelli erano invasori. Perché nel 43, se non erro, c'era stato l'armistizio. Perciò tu sei invasore, io uso tutte le armi pur le fatte mandare via. Era giusto che hanno fatto così. E certo che c'era anche chi diceva: maledetti quelli di Via Rasella. Ma era una minoranza, perché la risposta è molto semplice. La maggioranza delle persone che sono morte alle Ardiatine, se non partigiani combattenti, erano antifascisti, ebrei, gente che era finita dentro perché più o meno era coinvolta. Quindi i familiari si sentono coinvolti da quella parte. Ieri c'era un uomo, molto bello, il figlio di un generale che aveva dei cugini che ce l'avevano con lui, perché non si era fatto parte civile contro i partigiani. E diceva: ma sì, in un primo momento io avevo una gran rabbia. Poi però ho riflettuto, mio padre era uno di loro. Noi non conoscevamo la parola libertà, noi dovevamo portare l'uniforme a scuola, dovevamo pensare solo fascisticamente. Noi dovevamo salutarci, non potevamo stringerci la mano, era proibito, dovevamo salutarci col saluto fascista. Le lettere che ci scrivevamo dovevano finire con saluti fascisti. Io non ero libera di dire come la pensavo, io non potevo dire: a me il fascismo non piace. Oggigiorno, quando incontro dei ragazzi per strada e li sento dire siamo fascisti, mi fa male, ma io li vorrei fermare e gli vorrei dire: io vi abbraccio perché voi potete dire questo grazie a mio padre che è morto perché ci fosse la libertà, perché voi foste capaci e libere di dire come la pensate. Noi non potevamo. E noi eravamo gente costretta a lottare e non guerriere in cerca di gloria. C'era molta tensione durante le azioni, ma paura no. Certo, il senso della morte sì. Ecco, sì. Forse ci ha uniti proprio il senso della morte, perché avevi la netta sensazione che la tua vita si potesse spezzare da un momento all'altro e c'erano ancora così tante cose da fare, da vedere, da conoscere. avevamo 20 anni. A Piazza Barberini, in un'altra azione prima di Via Rasella, io ero di copertura con Fiorentini e Lucia. Bentivegna, il mio compagno, si portò in mezzo alla piazza e rimase lì fermo. Io guardavo cosa faceva, ma stava lì fermo in mezzo ai tedeschi che stavano uscendo dal cinema. Erano tanti, migliaia, e salivano sulle camionette. A un certo punto faccio per andarmene quando vedo che lui si butta per terra e fa esplodere l'ordigno. Allora ritorno su e all'incrocio con San Nicolò da Tolentino incontro Lucia e decidiamo di andare a vedere quanti erano. Chiaramente ci hanno fermato, delle imbecilli siamo state. Ma lo sa perché l'abbiamo tentata questa cosa? Perché io ho detto a Lucia, che sapevo che parlava perfettamente tedesco, tu parli e io sto zitta se ci dovessero fermare. Due belle ragazze, 18 e 19 anni, ci hanno fermate naturalmente. Io sotto braccio a lei mi sono messa a parlare con loro in tedesco. E zitta, muta, manco fosse scema. Ma si rende conto il pericolo che abbiamo corso? E difatti è andata così, ci hanno scambiato per due mignottine che dormivano al traforo. Noi ce la siamo subito svignata, Lucia è venuta a dormire a casa mia, che era una cosa molto pericolosa per noi gappisti. Io stavo al foro Traiano e per arrivarci abbiamo attraversato il traforo di via Milano, che era stato trasformato in un rifugio antiaereo, aveva l'entrata e l'uscita bloccate e dentro c'erano tutte queste luci, lucine, che era la gente che teneva le lampade all'acetilene accese e intere famiglie su materassi, paglia, stracci, era un intero accampamento di sfollati che viveva là dentro. Carla, cara, sono tanti anni che non la sento. Quella volta che ho dormito da lei mi ricordo che avevo la febbre alta, che faceva freddo, tanto freddo, e non c'era riscaldamento, niente. Lei ha preso il ferro da stiro, lo ha scaldato e lo ha passato sulle lenzuola. Era solo un piccolo gesto d'affetto, ma io non l'avevo mai visto fare. Insomma, lei ha scaldato il mio letto, mi ha coperta e mi ha detto, adesso dormi. Un giorno camminavo a Piazza Mattei con mio padre, abbiamo visto i tedeschi che hanno circondato un palazzo e hanno fatto scendere tutti gli ebrei. Allora è sceso un uomo, aveva accanto a sé una bambina che avrà avuto 10 anni e c'è stato uno scambio di sguardi fra quest'uomo e una donna che passava di lì, non si conoscevano. E quest'uomo, nel tratto dal portone al camion dei tedeschi dove li portavano via e finivano deportati nelle camere a gas, in questo tragitto, mentre la bambina, che era la figlia, stava attaccata a lui, il padre gli ha dato uno strattone forte per allontanarla da sé, sempre guardando fisso a questa donna, che però non poteva avvicinarsi. Allora la bambina è tornata dal padre, finché alla fine, forse quei pochi passi che lo separavano, l'uomo, il padre, gli ha dato un altro strattone forte da farla quasi cadere per terra, sempre guardando questa donna che era una donna semplice, una donna del popolo, che ha subito preso la bambina, che si divincolava forte, l'ha tenuta stretta. Non si potevano parlare, però c'è stato questo lungo sguardo, perché gli italiani erano uniti, uniti per aiutarsi a vicenda. La bambina si è salvata, l'uomo naturalmente non è più tornato, ma c'era nello sguardo di quest'uomo un dolore indescrivibile, tutta la tragedia dell'Italia era riassunta in questo sguardo. Essere fidanzati durante la resistenza è una cosa strana, è una sfida con l'altro. Insieme siamo una forza e lo siamo sempre stati ed è questa forza che ci ha tenuto insieme tutta la vita. Mi ricordo che una volta durante un combattimento gli dissi che un bossolo mi aveva colpito un polpaccio. Mario, ho male, ho male, ho male. E lui freddo, cammina, cammina, cammina e non correre. Io camminavo perché mi fidavo di lui. La cosa strana è che io sentivo meno dolore. Facevamo tutte le azioni insieme. Durante la resistenza io ero la sua ombra e lui la mia. Eravamo Mario e Lucia. Io ho conosciuto Bentivegna a ottobre, per caso. Era un appuntamento con Mario Leporatti a Piazza Fiume. Lui passava con il tram e quando ha visto che quello parlava con una ragazza in tailleur, portavo anche un cappello, è sceso ed è venuto a curiosare. Si è presentato, Paolo, tutti i nomi clandestini. Poi è venuto tante volte a casa mia, perché a casa mia c'era il centro per la quarta zona per la diffusione del giornale e per la raccolta delle armi. Ed è da lì che siamo partiti, la sera del 7 novembre, a fare le scritte su Roma, che è stata un'avventura bellissima. Io e Rodolfo Coari decidiamo che vogliamo tappezzare tutta Roma di scritte contro i tedeschi e contro i fascisti. Lui arriva, porta i barattoli di vernice rossa e pennelli e ci raggiunge a Bentivegna. Poi usciamo tutti e tre. La prima è stata sulla fiancata del Vittoriano, che allora era come fare un insulto. A morte i tedeschi, a morte i fascisti. Poi siamo scesi giù a Piazza di Spagna, abbiamo fatto una falce e martello. Poi abbiamo riempito Piazza del Parlamento di scritte contro i tedeschi e i fascisti. Poi siamo arrivati giù a Piazza del Popolo che era pieno di camionette di tedeschi, ma noi non avevamo portato niente per attaccarli. Allora gli abbiamo scritto sulle fiancate dei camion, viva Rosa Luxemburg. Poi siamo andati su all'obelisco a fare una falce in martello in alto in modo che non potesse essere cancellata. Allora io sono andata sopra le spalle di Bentivegna e chiaramente gli ho riempito di vernice rossa ed era come aver firmato tutte le scritte così. Quindi siamo andati a lavarci e mentre ci lavavamo lui rideva e diceva sei una matta, pulisci, pulisci. E quella è stata la prima azione che io ho fatto con Bentivegna. E fare le azioni insieme creava una solidarietà che diventava affetto. Fai le azioni insieme, studi insieme, hai delle emozioni insieme e questo crea la base del sentimento. C'è materia viva, continua, umana, sei colpito in tutti i tuoi sentimenti, c'è la paura, il coraggio, il rischio, la morte anche. Io mi ero appena sposata quando l'hanno preso a Via Rasella. C'avevo 23 anni, mio marito 29. Ci eravamo sposati a dicembre e a marzo è morto. Lui, Umberto, era un pochetto più alto di me. Così. Una persona per me fine. Vabbè, dice logico, tu sei la moglie. No, no, è che veramente era una persona gradevole. Quando lavorava, io gli facevo la pagnottella per non ritornare a casa che era lontano. Quello che c'avevo gli mettevo, insomma. Gli piaceva di parlare, di ragionare. Era un uomo completo. Io per quello che l'ho conosciuto, perché sono stata sposata solo 3 mesi, però ci ho fatto l'amore 3 anni. Perciò io lo so chi era. Dormivamo tanto nella cantina di Duilio e io ero unica donna insieme a tutti i maschi. Dormivamo per terra, attaccati come dei cuccioli. Ti fai consolazione da caldo. C'era molta promiscuità, però devo dire che c'è stato anche molto rispetto da parte dei compagni. Vabbè, una volta Mario Leporatti mi dormiva qua vicino, dall'altra parte Bentivegna, e poi c'era anche Enzo Russo, ma lui lo tenevamo lontano perché era quello che ci aveva portato tutti i pidocchi, la scabbia, non si lavava mai. Ma era una persona brava, simpatica, coraggiosa. Insomma, Leporatti si vede che gli era presa questa fantasia nei miei confronti e durante la notte sento una mano che mi perlustra. Io mi dico, ma che è sta mano? Insomma, il giorno dopo si sveglia e mi dice, no Carla, sai, scusa, stavo sognando. Gli dico, senti, guarda, tu la prossima volta dormi di là perché non sei una persona educata. Poi quando facevamo la fila per lavarci, allora lui va da Bentivegna e gli dice, no sai, mi devo fare l'autocritica. E inizia questa cosa tipicamente comunista di quello che si fa l'analisi, si frusta, dice, no sai, perché io Carla la voglio sposare, sono sincero, tutta una cosa che poi chiaramente è caduta, perché questo era il segno soltanto di un turbamento che ci avevamo noi tutti. E anche, che so, di un bisogno, di un rapporto umano, di contatto umano. Quando eravamo fidanzati, sa, si parlava, no? E allora lui diceva, dice, se mi succede qualche cosa e me moro, tu che fai? Te risposi? Sempre lo diceva. Dico, ma perché stai a pensare a queste cose? Dico, c'hai 29 anni. E beh, dice, può succedere, no? C'è la guerra. Tu che fai? Te risposi? Dico, no. Io non mi risposo. Mia madre è rimasta vedova con 4 figlie, una dei 7 anni, una dei 6 anni, una dei 4 anni e io dei 3 mesi, nella miseria più totale, chiaramente, perché mio padre faceva il costruttore e pertanto era libero professionista, non è che ci avesse lasciato una pensione né niente. E quindi mia madre ha dovuto lavorare, mattina, sera, notte, ha sempre lavorato. Che poi le calcoli che a mia madre gli erano caduti tutti i capelli. Lei si era pelata tutta quanta, poverella, e girava con un fazzoletto in testa perché si vergognava, perché lei era una bella donna, me l'hanno detto tutti che era una bella donna pure. E però niente, lei girava tutta pelata, poverella, come un uomo. Io ho vissuto un momento di ribellione profondo. Non riuscivo ad accettare questa terribile violenza che c'era stata fatta. Beh, indubbiamente nessuno l'avrà fatto, credo che mia madre si sia fatta forza, ma guardi, io non mi ricordo di averla mai vista piangere. Indubbiamente l'avrà fatto, aveva perso un marito e un figlio, ma davanti a me no, mai. Mia madre attaccava alle 7 al laboratorio di cucito. Verso le 2:30 così, diciamo, staccava, veniva a casa, stava quelle 3-4 ore, preparava la cena, ci sistemava a noi figlie e poi andava tutta la notte al centralino. Staccava dal centralino, andava direttamente al laboratorio di cucito. Questa è la vita di mia madre. Ecco. Io mi ricordo che lei ci passava la notte lì dentro perché non ci voleva andare con le mele piedi. Perché si ricorda che negli anni 50 c'erano quei ragazzini che c'hanno le melapiedi, no? Si diceva, oh guarda quello c'ha le melapiedi. Mia madre per evitare questo, con il cotone, ci faceva i calzini. Io non ci ho mai avuto le melapiedi, mai. Poi con le camicie che si toglieva mio zio ci faceva le mutandine, ci metteva pure il merletto. E io me la ricordo così, tutta la notte cucire e lavorare a maglia per mandarci sempre vestite carucce, pulite e ordinate. Questa è la vita di mia madre. Ma quando se lo faceva un altro uomo? Ma chi se la prendeva una pazza del genere? Perché era una pazza nel senso che c'era il cervello che gli andava a 300 all'ora con tutti i pensieri che c'aveva. Ma insomma, quattro ragazzine, lavorate giorno e notte. Ma che se crescono così quattro creature? Ecco le vedove che hanno fatto. Hanno lavorato e sono state zitte. No, non ci ho pensato mai a risposarne. Dice una stupidaggine. Però quando eravamo fidanzati gliel'avevo detto, forse pure per quello non mi sono risposata. L'avevo detto e non mi sono risposata. Ma non ci ho sofferto. Sono rimasta così, sola. Poi io sono sempre stata una persona irascibile, che quando qualcuno mi diceva qualcosa andavo su tutte le furie. Eh sì, perché dovunque si andava si sapeva che io ho perso il marito, io e l'altre donne. E perciò chissà, no, se pensavano che una stava a disposizione loro, mentre passavi una parola te la doveva dire. Le provaccia, insomma. Ma perché? Perché a me mi è successa una disgrazia, tu vorresti pure approfittare. Sì, mi girava, sì, mi capitava bene, gli dicevo pure quello che mi sentivo. E allora, ah, ma tu, sempre così, sei sempre nevrastenica, a me lasciatemi perdere. Non mi parlate, non mi salutate nemmeno, che a me mi fa piacere lo stesso. Io sto bene sola, e basta. È stato molto strano questo. E queste vedove sono state tutte delle vedove strane. So delle vedove assurde, perché per esempio di tantissime vedove, so pochissime quelle che si sono risposate, se possono contare su una mano. Per la maggioranza sono rimaste sempre quelle vedove, quasi come se non si fosse riusciti a seppellirli questi morti. C'è questo culto, c'è questa copertura di questi morti. Roma si è ritrovata con 335 vedove che non si sono sentite. Nessuno! Al processo Kappler non l'hanno fatta entrare. Sì, mia madre c'era andata, ma non l'hanno fatta costituire parte civile, non l'hanno fatta entrare. E perciò Roma si è ritrovata con 335 vedove, io adesso che posso dire, che aggettivo posso usare? Non vedove, assenti. Ecco, in Italia, a Roma, ci sono state 335 vedove assenti. Io tornavo sempre a casa disperata e un giorno mia madre mi disse, senti Vera, io lo so che sei disperata, ma non sei la sola, lo sono anch'io e lo sono anche le tue sorelle. E io gli dissi, mamma, ma io non riesco a vincerlo. E lei disse, non importa, tu fai così. Piangi quanto vuoi quando sei per strada, ma quando torni a casa prima di suonare, fai un sorriso prima di suonare il campanello. E io ho detto, mamma, ma io non ce la faccio. Guardi, mi ricordo ancora quello che diceva. È semplice, sai, tu fai così. Fai un sorriso così, con le dita agli angoli della bocca. E poi suoni il campanello, perché se no tu così a me mi uccidi. Guardi, mia madre è stata perseguitata proprio, perché non si poteva parlare, non si poteva dire niente. Per esempio, mi ricordo che una volta mi raccontò che lei era scesa dal fornaio per fare la spesa, che papà era già morto, e ritornò subito a casa. Allora gli disse a mia nonna, dice, hai visto come ho fatto presto? Il signor Tommaso, mi ricordo anche il nome, si chiamava Tommaso questo, dice, appena mi ha visto mi ha detto, venga, venga, signora Polli, che la servo subito. Ma lo sai perché? Gli ha detto mia nonna. Perché invece voleva entrare al negozio. Ringrazia Dio che quello ti ha dato il pane, se no quel disgraziato manco il pane ti dava. Capito? Non ce la ponevano dentro al negozio. Perché era la moglie di uno caduto, di un antifascista, era scomoda. Quindi quando mia madre l'ha capito, giustamente ci voleva andare a fare la spesa. Dice, gli do fastidio, gli do pure fastidio. Io ho immediatamente smesso i panni, non la pistola, ma i panni mentali della persona che faceva la lotta armata l'ho lasciati immediatamente. Perché immediatamente sono stata travolta da questa attività straordinaria che era il Partito Comunista a Roma, che nasceva nelle borgate, nei quartieri popolari. Mi è rimasto un piccolo strascico, ma molto piccolo, che è il fatto che io credo di aver realmente smesso la pistola solo 8-10 mesi dopo. Nel senso che, innanzitutto perché c'erano ancora i fascisti, e poi perché mi sentivo nuda senza la pistola. Dopodiché però anche la pistola è andata nel cassetto e non ho più avuto nessun tipo di tentazione. No, mai. Quando c'è la guerra tutto cambia, non ci si riconosce più. Però io devo confessare una sensazione strana, una sensazione di pena infinita per il nemico. E quando a fine guerra vidi quei camion tedeschi pieni di ragazzini, pieni di giovani soldati di leva che tornavano a casa e cantavano con la paura nel cuore a casa, che lì staremo meglio. Io scoppiai a piangere, perché io conoscevo quei canti, li avevo sentiti in Alsazia quando ero piccola. Capivo quello che dicevano, perché io parlo la loro lingua. Però io dico una cosa, papà. Io vorrei tanto sapere una cosa. Perché non ti sei infilata quella camicia nera e hai camminato pure tu come tutti quanti? Quando era il sabato andavi là sotto, come a mamma Lucco, a sentire le quattro cazzate che diceva quello là e pensavi alla famiglia tua. Ma con quattro ragazzine piccole, ma che te vai a mettere in mezzo a certe cose? Ma non ci ha pensato a noi? Io non ho mai sentito un partigiano dire che obbediva a un ordine. Questo l'hanno detto tutti i criminali nazisti a tutti i processi. Noi non l'abbiamo mai detto e non lo diciamo oggi. Via Rasella, io non l'ho fatto perché lo volevano gli americani, o perché lo voleva il comandante, o perché ho obbedito a un ordine. Via Rasella, io l'ho fatto perché lo volevo io. Dopo, quando me la so presa con mio padre, dopo gli chiedo perdono. Gli dico scusa papà, ma guarda pure io che cosa vado a pensare. Guarda. Le Brigate Rosse parlavano di lotta armata, si richiamavano alla resistenza, e questo mi è sembrato subito un tragico malinteso. Li odiati, perché hanno veramente interrotto un processo democratico che forse stava arrivando a un sano epilogo. Avessimo avuto un governo con Berlinguer, forse le sorti d'Italia sarebbero state diverse. Sono colpevoli, essenzialmente per ignoranza. Loro non hanno letto la società italiana, per cui io li ho profondamente odiati. Il loro è stato un tragico errore. Quando era domenica veniva zio Gigetto e mi prendeva a me, che ero la più piccola, a mia nonna, a mia zia, e ci portava alle fosse ardeatine. Mia nonna attaccata a quelle tombe e io a giocare ai giardinetti delle fosse ardeatine, così gli altri ragazzini andavano in ville, ai parchi, ai giostri, e io andavo alle fosse ardeatine. Quelle erano le mie passeggiate. Poi, diciamo, io l'ho capito anche abbastanza subito che era lì che papà, insomma, infatti quando nonna mi portava proprio a vedere le cave, io gli dicevo sempre, nonna, mi fai capire dov'è che è morto papà? Mi fai capire esattamente dove? Lei mi diceva, dentro a sto buco. Ma come dentro a sto buco? Io non riuscivo a capire proprio come faceva. Poi la soddisfazione mia quando aprivo quel libro d'oro e come ho saputo leggere mi mettevo là e dicevo, però papà mio sta scritto dentro al libro d'oro. Che poi quel libro manca d'oro, quando ero piccola io era ancora tutto lucido, adesso si è invecchiato pure lui, è passato un sacco di tempo. E niente, mi ricordo tutte queste vecchie attaccate a ste tombe e sti ragazzini così che giocavano. Poi c'è tutto un circolo di commemorazioni, cerimonie, rituali, sono peggiorati, sono diventati più ufficiali e meno spontanei. Ci sono le bande, addirittura le maggiorette che io non sopporto, i discorsi ufficiali con i pezzi di carta in mano. Ma il mio primo discorso io l'ho fatto con Pietro Calamandrei, sono stata con lui a Sant'Anna di Stazzema, alle fosse del Frigido e a Vinca. Ed era come parlare abbracciandoci, non c'erano altoparlanti, era un dialogo che ti veniva fuori dal cuore, non era retorica. Era un misto di sentimenti, di rabbia e di amore, un miscuglio di sentimenti che passava tra te e la popolazione. Beh, l'ultima volta che sono stata a Viterbo invece a un certo punto vedo dei militari che iniziano a sfottere noi altri. Allora mi dico, va bene, questa volta io non inizio il comizio come di solito si fa, cittadini eccetera eccetera. E ho cominciato così. Irma Bandiera, quando nacque nel 1918, suo padre disse, meno male che è femmina e non farà il servizio militare. Irma Bandiera ha combattuto, è stata una partigiana, è stata arrestata, torturata, gli hanno strappato i seni, l'hanno uccisa e l'hanno buttata in una discarica. Sono rimasti tutti così fermi. E allora io lì ho capito, noi dobbiamo raccontare, io allora ho cominciato, così ho capito, noi dobbiamo raccontare, raccontare cose. E poi ci siamo sposate e dopo il matrimonio siamo andate coi buchi nostri alle fosse ardeatine a portarla a papà, però io prima di sposare gli mandavo un bel fascio di rose a mio padre e il giorno dopo gli ho portato il mio buchelli alle fosse ardeatine. E così mio padre mi ha accompagnato in chiesa, perché quel giorno avrei tanto voluto che mi accompagnava mio padre. E così hanno fatto anche tutte le mie sorelle, insomma tutte uguali, gli hanno mandato i fiori prima di sposare e dopo gli abbiamo portato i buchi nostri lì alle fosse. E poi mi ricordo che quando si è sposata l'ultima sorella io sono tornata a casa e trovo mia madre che stava seduta al tavolo della cucina, che lei non stava mai seduta. Allora io ho detto, dico, mamma, ma che stai a fare? Dice, sto a piangere, perché sai, dopo 30 anni adesso c'ho il tempo di piangere. Dice, mo' vi siete sistemati, io sono rimasta sola, mi sono messa in pensione e mo' mi posso ricordare del povero Domenico mio. e mo me lo sto a piangere. Fino a mo non ci ho avuto il tempo. Non ci ho manco avuto il tempo di piangere. Non ci ho manco avuto il tempo di godermelo sto lutto. E mo, finalmente, posso piangere in pace. La cosa strana è che io quel periodo non l'ho mai sognato. Non ho mai sognato nessuno degli eventi tragici. Ho sempre sognato cose belle, forse per necessità. Sognavo l'infanzia, il giardino, mia madre, mio padre, il nuotare. E questa è la mia vita di ricordi. Dopo questo lutto strano, questo lutto assente, questo lutto fatto diventare bianco, lavato, stirato, accomodato, aggiustato, oltraggiato, perché quando hanno voluto l'hanno pure oltraggiato, e poi chiuso in un cassetto. Però ora mi ricordo che c'è un sogno ricorrente, dopo però. Sognavo sempre che era tutto coperto d'acqua e un'enorme quercia galleggiava e io, mia madre, mio fratello piccolo, il gatto, stavamo sopra la quercia e poi a un certo punto non si trovava più mia sorella, quindi tutti, oddio, dov'è mia sorella? E poi mia sorella ricompariva. Poi il gatto cade in acqua e poi ci passa una mucca mezza annegata, poveretta. Allora io la prendo per le corna e tento di tirarle fuori il muso per salvarla, ma vedo che è morta, tutta gonfia. L'acqua scura intorno, tutto scuro. E poi mio fratello piccolo scivola in acqua. Allora io lo prendo per il braccio, ma non riesco a salvarlo. E allora mi devo buttare e nuotare anch'io in quest'acqua nera per salvarlo. Lo spettacolo Tante facce nella memoria, a cura di Mia Benedetta e Francesca Comencini. Testi liberamente tratti dalle registrazioni di Alessandro Portelli. Regia Francesca Comencini, con Mia Benedetta, Bianca Nappi, Carlotta Natoli, Lunetta Savino, Simonetta Solder, Chiara Tomarelli, assistente alla regia Andrea Sandali. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Daniela Nicolò di Motus per presentare la 50ª edizione del Sant'Arcangelo Festival, futuro fantastico, secondo movimento, a Sant'Arcangelo di Romagna dall'8 al 18 luglio 2021. Ben trovata! Buongiorno a tutte e tutti, grazie. Un'edizione speciale, ce la presenti? È difficile un po' presentarla perché è talmente espansa, ci sono un sacco di proposte, però di fondo ne siamo molto felici. È sicuramente un'edizione unica che accoglie un po' delle progettualità che l'anno scorso non avevamo potuto realizzare, molte compagnie internazionali che vengono anche da lontano e che lavoreranno in vari spazi, soprattutto all'aperto. Abbiamo deciso di tenere questi palchi molto grandi nel parco, che si popolerà anche con un villaggio ecosostenibile che ospiterà da 50 studenti da tutta Europa, per proprio lavorare e domandarsi cosa significa tornare insieme, how to be together. Un po' questa è la linea tematica che attraversa il festival. Abbiamo appunto parlato di festival mutaforme, di meduse, cyborg e specie compagne, e la linea è proprio quella di riconnettersi con l'ambiente e soprattutto pensare forme più eque di relazione con l'altro, con i viventi, con gli altri esseri umani, con le minoranze. Ci sono anche molti lavori che si occupano di diversità, minoranze etniche, ma anche con la natura, quindi col mondo animale, vegetale, per cui ci sono davvero tantissime proposte, molti spettacoli anche gratuiti, operazioni site specific nel centro storico, ma anche nell'entroterra di Sant'Arcangelo, nelle campagne, sui confini, fino ad arrivare a Rimini, con un progetto invece legato a Fellini di De Florian Tagliarini. Ci sono anche dei grandi nomi come, non so, Romeo Castellucci della nostra regione o Ermanna Montanari, che fa proprio un lavoro che si titola Madre, proprio sul rapporto con la terra malata, ma anche tante compagnie emergenti, e questo ne siamo molto felici, tante compagnie che arrivano al festival con delle opere prime, che tra l'altro hanno provato durante le residenze quest'inverno, durante la pandemia. Quindi per noi è stata un'occasione anche per sostenere soprattutto quelle compagnie più colpite, più fragili, anche rispetto a tutti gli effetti negativi che questo virus ha provocato. Il futuro fantastico da sottotitolo? Beh, questo è già un titolo che avevamo usato l'anno scorso, però era nato anche ancora prima della pandemia, perché quest'anno il festival, l'anno scorso in realtà, celebra i 50 anni di esistenza, di resistenza, di continua trasformazione. Quindi abbiamo pensato, oltre ad una serie di iniziative che guardano al passato, quindi la presentazione di un libro, di un documentario, di una mostra fotografica sugli anni 80 del festival, ma di usare questo sguardo indietro per pensare al futuro. E visto che l'anno scorso era anche il centenario della nascita di Asimov, Futuro Fantastico è il titolo di un racconto che aveva scritto immaginando proprio i nostri anni, quindi l'abbiamo voluto un po' rilanciare anche come sfida, provocazione, poi l'abbiamo mantenuto anche dopo la pandemia, proprio per invitare un po' tutte a non rinunciare all'immaginazione, a non rinunciare ai sogni, e quindi nonostante le difficoltà enormi che hanno colpito soprattutto anche il mondo dello spettacolo, i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, non abbassare la guardia, ma anzi rilanciare con dei progetti immaginifici, e di questi ce ne sono davvero tanti al festival che abbiamo ospitato, prodotto, con cui abbiamo collaborato. Nel complesso quanti sono più o meno gli appuntamenti? Ah, sono tantissimi, quasi una cinquantina, fra appunto opere più grandi di artisti internazionali come Amanda Pini, Emanuele Infante, appunto Ermanno, Romeo Castellucci, che si svolgono in questi grandi parchi all'aperto, Ceris Menso, il Conte Torre Eiffel, che fa uno spettacolo proprio sai specific, che è una prima mondiale proprio per Sant'Arcangelo, costruito su Sant'Arcangelo. Ha invece tanti lavori più piccoli, nelle sale anche al chiuso, quindi al lavatoio, in un piccolo palco nel cortile della scuola, al supercinema, dove ospiteremo diversi spettacoli, soprattutto di queste compagnie più emergenti. Ospiteremo questo progetto Incroci con tre compagnie di Teatro Magro, Babel e Asinitas, che hanno lavorato con ragazzini rifugiati, richiedenti asilo, quindi un'operazione di grande valore anche civile. Più operazioni invece per la città, come Grand Bois di Fanny Alexander e Blue Motion, Georgina P, che invece è un happening di inaugurazione che vedrà una ventina di postazioni di percussionisti posizionati sui tetti e terrazzi del Paese Vecchio, con una cantante che per 3 ore faranno questo concerto ispirato alle ritmiche del voodoo haitiano e rivisitato. Quindi ci sono anche molte proposte, così come la piazza Ganganelli, che sarà abitata per tutto il tempo da workshop aperti per bambini e adolescenti, nonché un programma di liscio. Vista la scomparsa di Raul Casadei, abbiamo deciso anche di dedicare 4 serate alla storia del liscio, con 2 scuole di ballo, balla con noi le serene danzanti, che con ballerini dai bambini e quelli professionisti passeranno le varie danze proprio tipiche del liscio romagnolo. Poi naturalmente c'è lo Sferisterio, che invece è un luogo bellissimo e che accoglierà una programmazione musicale curata da Chris Angelini del Bronson di Ravenna, quindi una programmazione tutta al femminile, quasi tutta al femminile, concerti gratuiti. Poi dopo i concerti ci si ritroverà tutti al Bisonte Caffè, sempre nello Sferisterio, che un po' sarà il luogo di ritrovo, con vari DJ set anche di artiste presenti al festival. Quindi sarà un po' anche una grande festa, un grande ritorno alla vita comune, con tante possibilità per chi arriva anche al festival senza riuscire, purtroppo, benché abbiamo tante proposte, i posti sono quasi esauriti, stiamo ottenendo molte compagnie di fare delle repliche straordinarie, però ci saranno anche molte proposte aperte, quindi si riuscirà sempre a vedere qualcosa, ecco, e a ritrovarsi insieme soprattutto. Per tutte le informazioni ci lasci riferimenti internet? Beh, bisogna andare sicuramente nel sito del festival, www.santarcangelofestival.com, lì c'è la programmazione, c'è anche il link alla biglietteria online, poi chiaramente quando si arriverà qua, tanto il festival comincia all'8, ci sarà sempre la biglietteria aperta, per cui sarà possibile anche ogni giorno vedere quali posti si liberano, se ci sono, se purtroppo abbiamo queste limitazioni, questo è drammatico, che tutti i luoghi hanno la metà della capienza, perché non sono state fatte modifiche ai decreti rispetto al mondo dello spettacolo, e questo insomma è il solito grande problema che viene lasciato per ultimo, quindi i luoghi hanno la metà della capienza, questo è il motivo per cui ogni giorno è importante informarsi, vedere se si liberano dei posti, se si sono aggiunte delle repliche da parte delle compagnie che gentilmente hanno capito la situazione, perché stiamo avendo una grandissima risposta di stampa, operatori da tutta Europa che si sposteranno al festival, quindi ecco, sarà anche abbastanza sovraffollata la piccola Sant'Arcangelo.

grande magia collettiva che riempie tutto il parco, ci sono diversi spazi, c'è l'area eventi, c'è l'area dibattiti. Quest'anno tra l'altro ci allarghiamo perché vicino a noi il municipio ha recuperato uno spazio che era l'ex casa del custode, che si chiama l'Approdo, Porto Culturale Sicuro. È un progetto che guarda a un patto educativo condiviso rispetto ai piani dell'educazione dell'infanzia, quindi dal 7 al 25 in quello spazio lì dal pomeriggio tutti i giorni ci saranno laboratori, iniziative per bambini e per bambine e per alcune serate anche un cinema dedicato. Facciamo una panoramica su queste settimane? Partiamo il 7 con il brindisi d'inizio, quindi ci vediamo alle 18 al parco, brindiamo in compagnia della Strada Banda, poi partiamo subito alle 21 con un concerto, l'8 luglio presentazione di Rock and Soul e la sera ci vengono a trovare gli amici del Borghetta Stile. Borghetta Stile è una crew insomma che ormai da tanti anni, sono ragazzi e ragazze nate nel quartiere e che ormai hanno una serata molto famosa, hanno percorso con noi questo anno e mezzo l'avventura di Municipio Solidale che ci ha visto insieme sostenere a livello alimentare circa 300 famiglie e anche in qualche modo a cercare di scardinare l'idea che si è un po' stigmatizzata sui ragazzi e ragazze come un po' il problema di questa pandemia. Noi invece abbiamo sperimentato che sono stati una grande risposta a partire dal Borghetta Stile, che in quell'anno e mezzo non ha potuto fare la propria attività dei set, di strade, si è messa a disposizione invece con tutte le ragazze e le ragazze insieme a noi nel progetto di Municipio Solidale. Il 9 abbiamo il Poetry Slam, il 10 una serata a cui teniamo particolarmente, il pomeriggio c'è Capitan anche davanti, quindi salto da sotto da 18 poi le reti tutto andendè, è un atto che portiamo avanti da tantissimi anni, che ci portiamo per un pezzo di noi anche dal centro sociale La Strada. Ci sono oltre 10 band, questo è l'unico evento che noi immaginiamo con una sottoscrizione perché gli artisti si prestano gratuitamente e tutto il ricavato andrà a sostenere Mediterranea Saving Human, che è un'altra per il secondo anno, la festa quest'anno è in collaborazione con loro, è dedicata a loro, sosteniamo fortemente il progetto di Mediterranea, l'importanza di quello appunto che succede nel Mediterraneo, che nessuno e nessuna vuole guardare, è importante mantenere questi occhi e quindi saranno con noi, il tributo ad Andrea sarà dedicato a loro e così le sottoscrizioni. Quindi andiamo avanti con serate di cinema, abbiamo delle serate in collaborazione con The Tour Film Society, abbiamo la presentazione del libro Ripartire dal desiderio, quindi abbiamo tutta una parte legata quindi anche al ragionamento femminista, al manifesto della cura che in qualche modo ragiona sull'ottica intersezionale, sul tema del mutualismo e un po' anche quello che caratterizza i rapporti e le relazioni che si possono intorno ai progetti di casetta. Abbiamo poi, visto che sono i 20 anni di Genova 2001, quest'anno la festa dedica i suoi 3 giorni, 19, 20 e 21, a quelle giornate. La festa dal 2001 è dedicata a Carlo, anche quest'anno lo sarà ancora con più forza, quest'anno ricordiamo anche Vittoria Arrigoni, da 10 anni dalla sua morte, quindi due personaggi importanti a cui vogliamo dedicare tutta la festa. Il 19 partiamo un po' in corrispondenza con quello che fu il corteo dei migranti di Genova, quindi con Sentieri Migranti e in qualche modo quindi un pomeriggio dedicato sia con delle mostre fotografiche sia con dei dibattiti a quelli che sono i sentieri e a quelle che sono appunto anche le situazioni agghiaccianti che abbiamo visto per esempio nei campi improvvisati o alle barriere come sulla rotta balcanica. La sera insieme a Gianluca Peciola e Daniele Vicari presentiamo il libro di Gianluca Peciola, che per noi è un amico, un fratello, un compagno di tanti anni, che era con noi a Genova insieme anche a Annalisa Camilli, e a seguire ci riproiettiamo quel pugno al cuore che è di in compagnia del regista Daniele Vicari. Il 18 invece abbiamo un pomeriggio con Luigi Manconi e Gabriele Tarquini dedicata agli inizi, la sera la memoria con Chiara Giordano. Il 21 Happy Diaz di Massimo Palma e la sera banda Iora del concerto, ovviamente con cuore, con tutto il nostro cuore a Genova e con i compagni e le compagne che anche saranno qui. Continuiamo il 23 luglio con Barbara Eramo e il Babab Ensemble, il 24 ci sarà Ivan Talarico che torna da noi, anche lui è un amico di tanto tempo, siamo contenti che torni sul nostro palco, e finiamo il 25 con tanta musica e la nostra tradizionale guerra d'acqua di gavettoni, che tendenzialmente parte della 5 arriva quasi sempre oltre la mezzanotte. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma? Sia su Facebook che su Instagram Casetta Rossa, SPA, Spazio Pubblico dell'Autogoverno, abbiamo anche il sito casettarossa.org dove trovate sia il programma che si svolgerà nel parco, sia appunto quello dello spazio a prova, che questa avventura è il nostro spazio gemello e ci accompagna per tutta la festa con le attività per bambini e bambine. 19esima edizione della Festa dell'Altra Estate a Roma, Casetta Rossa SPA, dal 7 al 25 luglio 2021. Saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Conia. Un in bocca al lupo e a presto. Ciao Federico, ti aspettiamo. E a tutte e tutti voi, grazie. Con Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette per presentare il progetto Il Mondo Nuovo, teatro errante di comunità per la 7ª edizione dei territori da cucire in 5 comuni della Val Samoggia dal 7 al 31 luglio 2021. Stefano, ben trovato. Buongiorno a tutti, ciao. Raccontaci tutto. Qua. Il Mondo Nuovo deve ancora arrivare o forse in parte è già cominciato, quindi anche noi ne sappiamo poco, però ci siamo resi conto in questi ultimi tempi che le cose stanno cambiando con un'accelerazione veramente significativa. Un po' questo Mondo Nuovo sembra che ci venga imposto e un po' proposto. Non sapendo come sarà questo Mondo Nuovo, abbiamo pensato noi con tutti i cittadini della Val Samoggia, partecipanti al nostro laboratorio, di provare a disegnarne l'immagine. Come ce lo immaginiamo questo mondo che sta avanzando a grandi passi sulla spinta della pandemia e che cambia le nostre abitudini? Come ce lo immaginiamo e non come lo desideriamo, perché come lo desideriamo un mondo nuovo ce lo siamo detti forse tante volte inseguendo i nostri sogni e le nostre utopie, ma questa volta seguendo anche gli incubi e i sogni distopici, cosa ci porterà? Ecco, questo è il lavoro che abbiamo fatto e cercato di fare costruendo questa varietà errante in 5 puntate, disegnare le immagini belle e brutte che noi abbiamo di questo futuro che ci aspetta e ci corre incontro. Il teatro errante di comunità come si sta sviluppando? Abbiamo naturalmente dovuto recuperare una serie di arresti e stop dovuti alla situazione della pandemia. Abbiamo però potuto ricominciare dai primi di maggio a fare i nostri incontri e quindi sta marciando anche lui un po' come il nostro mondo adesso, tutto in fretta. Da maggio abbiamo avuto solo questi 2 mesi a disposizione, maggio e giugno, ma siamo riusciti a produrre moltissimo materiale. Malgrado tutto, probabilmente avevamo tutti voglia di confrontarci, di tirare fuori quello che abbiamo accumulato in questi mesi di solitudine, isolamento. Sì, avevamo voglia di coraggio e quindi stiamo lavorando come sempre, partendo da dei ragazzini di 16 anni e arrivare ai più anziani di 85-86 anni. Ci incontriamo, parliamo, discutiamo, proviamo e le cose vengono fuori. Adesso aspettiamo mercoledì di incontrare per la prima volta gli spettatori, provando con i problemi del distanziamento che effetto ci farà averli un po' più lontani del solito, meno accalcati, meno assembrati. Non lo so, comunque ci farà molto piacere ritrovare le piazze come luogo di aggregazione della comunità che si trova pur con l'idea di divertirsi ma anche con l'idea di riflettere sul proprio destino e sul proprio futuro. Come si caratterizza ognuna di queste 5 tappe? In un certo senso, come tutti i varietà, lo spettacolo si muove a numeri, ha le sue sigle di apertura, di chiusura e poi i numeri cambiano. Però ci siamo dati dei grandi temi, ci siamo fatti in fondo 5 domande. Cominceremo dalla prima puntata legata al tema del cibo, cioè come mangeremo, cosa mangeremo, come immaginiamo che sarà prodotto il cibo in questo mondo nuovo. Nella seconda puntata ci domanderemo invece come e se ameremo e ci riprodurremo. Nella terza proveremo a domandarci che lingua parleremo, quale sarà la lingua di questo mondo nuovo, globalizzato e informatizzato. Avremo ancora radici, nasceremo in un luogo al quale rimarremo affezionati? Nella quarta puntata ci faremo domande sulla specie, perché di questi tempi è veramente cruciale anche il posto dell'uomo dentro questo pianeta, specie, genere, identità, e nell'ultima ci domanderemo come verrà gestito il potere, chi sarà a decidere delle nostre sorti, saremo ancora noi, saremo dentro un sistema democratico, oligarchico oppure ancora diverso. Insomma, sono le domande che più ci sembravano stringenti e alle quali si poteva provare a dare una risposta indagando nei nostri sogni e nelle immagini che avevamo. Per le informazioni ci dai i riferimenti internet? Se volete rimanere aggiornati, naturalmente trovate tutte le informazioni e il programma sul nostro sito, che è www.delleariette.it, e poi sui social, Teatro delle Ariette di Facebook e pure Instagram. E poi naturalmente, se non disponete di questioni telematiche, potete anche darci un colpo di telefono allo 051 670 4373, altrimenti venite a trovarci dove vi raccontiamo a voce quello che stiamo facendo. Il Mondo Nuovo, teatro errante di comunità per la settima edizione dei Territori da Cucire in 5 comuni della Val Samoggia, dal 7 al 31 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette. Un in bocca al lupo e alla prossima! Grazie mille e un saluto caro a te e a tutti. Ciao! È il momento dell'agenda teatrale della settimana, siamo con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone! Ciao, buongiorno a tutti. Questa settimana abbiamo un po' di cosette sparse, nonostante sia luglio, però qualcosa si muove, fortunatamente. Intanto c'è il ritorno di Dignità Autonome di Prostituzione, che è il vecchio progetto di Luciano Melchionna, di cui abbiamo poi nel radioteatro ospitato degli appuntamenti in passato, perché sono un progetto piuttosto storico, che torna 8 e 9 luglio a Roma, quindi giovedì e venerdì, con questo progetto che si chiama Palingenesi, a Parco Mirvio, che, come dice il nome, sta esattamente nello spazio di Ponte Mirvio, di fianco a Ponte Mirvio. E questo è un lavoro, una edizione speciale che sarà all'aperto e in sicurezza, quindi all'interno di questo parco urbano ci saranno vari spettacoli in più orari che andranno a succedersi. Come funziona? Per chi non l'avesse mai provato, Dignità Autonome di Prostituzione è un tentativo, ma piuttosto riuscito, divertente, di in qualche modo giocare sul confine tra quanto poi l'arte significa in qualche modo anche prostituirsi attraverso, no, il pagamento del biglietto, giocando su questo limite assolutamente del tutto legato a una riflessione sullo stato dell'arte. Luciano Melchionna ha immaginato dei piccoli luoghi, delle stanze che poi all'aperto non so come saranno costruite, ma sicuramente c'erano delle stazioni diverse, con questo spirito di attraversamento dell'intero luogo, Parco Mirvio in questo caso, dove ci saranno delle varie storie che andranno quindi a succedersi in orari diversi, quindi si può attraverso un biglietto andare da una storia all'altra pagando ogni volta l'ingresso in quella determinata stanza, quindi avendo accesso a quella determinata storia. E questo è un po' il progetto che è sempre stato diventato anche di prostituzione, ma sarà anche carino andare a vedere come si è trasformato. Quindi 8-9 luglio al Parco Mirvio con questo progetto che si chiama Palingenesi. Per ciò che riguarda invece Radure che porta con la TCL gli spettacoli in giro per la nostra regione, a Maenza sabato 10 luglio sarà l'occasione per L'Uomo dal Fiore in Bocca di Luigi Ghirlandello con Lucrezia Lante della Rovere, la regia è quella di Francesco Zecca, ed è un testo tra i più noti di Ghirlandello e anche tra i più complessi. A questo punto, dal cantone a destra sporgerà il capo a spiare la donna vestita di nero. Così si apre la restituzione che Francesco Zecca con Lucrezia Lante della Rovere porterà a mensa nel castello baronale di Piazza del Duomo, mentre invece l'11 luglio, domenica, alla loggia dei mercanti, sempre di Mensa, ci sarà un concerto con la collaborazione della comunità locale, che è L'amor che muove il sole e l'altre stelle, chiaro il riferimento alla commedia dantesca. E l'ingresso per questo concerto è libero, mentre invece per lo spettacolo l'ingresso è di 8 euro appunto in questo luogo che si chiama Mensa. Al Teatro Lo Spazio questa settimana, il 6 luglio, sarà lo spettacolo Psicosi del 21-21 diciamo, di e con Ludovica Bei e Franco Savi, che porteranno insomma questa trentenne di Spinaceto che fa l'attrice ma anche la cameriera e un ragazzo di Roma Nord ad avere qualcosa in comune appunto con questo ragazzo di Roma Nord che non ha mai lavorato un giorno in vita sua. Apparentemente non hanno nulla in comune, ma insomma qualcosa evidentemente poi li legherà, e il 6 luglio lo andremo a vedere al Teatro Lo Spazio nella sezione all'aperto, mentre il 7 di luglio, che è mercoledì, andremo nelle atmosfere di Adele Tirante con il Café Chantant, che è il suo spettacolo tra canzonette di altri tempi e altri luoghi, mentre il 9 luglio Maximilian Nisi con Shakespeare, amore mio, porterà in quelle atmosfere appunto shakespeariane con della musica dal vivo di Stefano De Meo. Questo per quanto riguarda il teatro Lo Spazio. Ancora andremo avanti con il programma, il fuori programma, diciamo, il programma di fuori programma, se dice di parole, un allestimento lunedì 12 luglio, quindi settimana prossima, Diego Tortelli a Terballetto nell'Arena del Teatro India. Staremo a vedere se poi sarà possibile, visti gli scioperi, per questa prima regionale di Corpi Varis, con appunto la coreografia di Diego Tortelli e l'interprete che è Sandra Salietti Aguilera. Appunto questa prima sarà il 12 luglio, un format nato da un laboratorio di Diego Tortelli insieme a Gaia Clotilde Carneticci, cioè la drammaturgo studiosa di danza, e i danzatori di Ater Balletto. È un'idea creativa che viene trasformata in danza attraverso poi una suggestione nata da una frase di Charles Baudelaire: la vita della nostra città è ricca di soggetti poetici e meravigliosi. Siamo avvolti ed immersi come in un'atmosfera che ha del meraviglioso, ma non ce ne accorgiamo. Non disprezzate la sensibilità di nessuno, la sensibilità di ognuno è il suo genio. Questa frase molto evocativa di Charles Baudelaire andrà poi a comporre appunto questo lavoro il 12 di luglio nell'Arena del Teatro India per Fuori Programma Festival Maurit Reloaded. Poi al Teatro India, per ciò che riguarda gli appuntamenti del Teatro India, insomma del Teatro di Roma, sempre su B11, insomma nell'Arena en plein air del Teatro India, con un dittico di spettacoli di Enzo Moscato, che sarebbe ci fosse un po' l'evento della settimana, perché insomma è sicuramente uno degli eventi più interessanti, più importanti. Dal 7 al 9 luglio, compleanno, il lavoro di Enzo Moscato, compleanno, spettacolo dedicato al festeggiamento in assenza di Annibale Ruccello, il grande drammaturgo. E invece poi il 10 luglio ci sarà Modo Minore, e questo viaggio mnemonico musicale che si sposta danzando nell'impero canoro napoletano degli ultimi tre decenni del Novecento, attraverso un viaggio per la musica napoletana con certo spettacolo di musica popolare. Quindi se dal 7 al 9 luglio compleanno, 10 luglio Modo Minore, forse questo andremo a evidentemente a vedere, forse all'Arena del Teatro India. Questa settimana, per ciò che riguarda i solisti del teatro, il 10 di luglio, che è venerdì, ai Giardini della Filarmonica, mi piace segnalare la storia di Artemisia Gentileschi, in Italia nel mondo, con Artemisia, Caterina Ipazia e le altre, con il testo scritto e interpretato da narratrice torinese Laura Curino, con la drammaturgia Patrizia Monaco. Appunto uno solo degli appuntamenti dei colletti del teatro che riprende appunto al Giardino della Filarmonica a Roma. Per ciò che riguarda invece la danza, ci porteremo un po' più lontano, del 10 andremo a Velletri per questo lavoro della compagnia portoghese Compagnia di Danza di Almada, che inaugura la giornata di performance di sapienza artistica e poetica con Subrosa, per la coreografia di Bruno Duarte, e Marvel, è uno spettacolo ispirato all'immaginario dei fumetti. Queste sono le due produzioni che andiamo a vedere il 10 luglio a Velletri, questo festival internazionale della danza contemporanea che si chiama Paesaggi del Corpo. Ancora qualcosa da non dimenticare, sicuramente allo spazio, nello spazio di Largo Venio ci sarà un evento, si chiama Unconventional Date, una serata di teatro, danza, musica e arti visive, appunto sarà l'8 luglio, giovedì, dalle ore 18 fino a tardi, appunto lo spazio del Pigneto, del Club 55 del Pigneto, appunto lo spazio che avevo ospitato prima, queste performance e questi spettacoli, si porterà poi allo spazio, uno spazio di Largo Venio, dove sicuramente è più possibile lavorare all'aperto. Per la sessione teatrale avremo uno studio da pezzettino di Vivian Antonelli, ci sarà anche Davide Grillo con i monologhi contro l'affanno, i brevi testi tragicomici che hanno a che fare con il tempo. La danza invece ospiterà Nina, questa realtà recente di danza contemporanea che propone due spettacoli che uniscono musica e movimento nel segno dell'improvvisazione. Il direttore artistico di Nina è il coreografo Davide Valrosso, che presenterà anche Flying, studi di improvvisazione, un'indagine creata assieme al musicista Daniele Guerrino per approfondire la reclinazione dello sguardo, ma anche la creazione stessa della realtà. Altro nome che andiamo a segnalare è quello di Erika Bravini, artista che viene associata a Nina, che porta in scena About Improvisation, un incontro tra il corpo della danzatrice e la voce di Sonia Ziccardi. Questo è quello che andremo a vedere l'8 di luglio nello spazio di Largo Venio, serata organizzata appunto dal Club del 55. Invece per la stagione sempre più fuori di quest'estate del Teatro Biblioteca Quarticciolo, il 6 luglio andremo a vedere oggi pomeriggio alle 18.30 al Parco Alessandrino Storia di un uomo e della sua ombra, Mannaggia Mort. Questo è il sottotitolo della compagnia Principio, attivo teatro con Giuseppe Semeraro, Dario Cadeglia e Leone Marco Bartolo, porta in scena un cartone animato in bianco e nero, un film muto con due attori in carne e ossa. La scena si apre su un vuoto, nessun oggetto sul palco, solo la luce che lentamente cresce. Un personaggio arriva, rappresenta una persona qualunque, che si costruisce un proprio destino, un proprio futuro in una casa invisibile. Questo è quello che andremo a vedere appunto nel Parco Alessandrino alle 18.30, oggi con Principio Attivo Teatro, Storia di un uomo e della sua ombra. Ancora qualcosina, perché c'è il festival il futuro festival del teatro Brancaccio questa settimana, perché andiamo a parlare delle due repliche di La Nona, 8 e 9 luglio, per una delle compagnie di danza più interessanti di questo del panorama nazionale, ovvero sia la compagnia Zappalà Danza, con Roberto Zappalà e Maria Inguscio, che andranno a portare questo loro lavoro, La Nona, appunto al Teatro Brancaccio per questo futuro festival che merita davvero attenzione, andrà avanti fino alla fine di luglio. E con questo, Federico, direi che ci siamo. È tutto. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.